Intanto volevo ringraziare Marco Bersani che da Roma è riuscito a fare una capatina qua, con la fortuna che ha qualche aggancio a Saronno, siamo riusciti ad averlo questa sera con noi. Poi dopo si presenterà lui meglio di quello che posso fare io. Insieme a lui abbiamo Edi Borgianni, che è la rappresentante del Comitato Comasco per l'acqua pubblica, e ci racconterà a che punto siamo nella provincia di Como col discorso ATO, azienda speciale, ufficio d'ambito, eccetera, eccetera. A che punto siamo, perché le cose non sono chiare, così chiare e limpide come pare, ma ci racconterà qualcosa di più preciso. Mentre l'ingegner Bianchi Riccardo fa parte del consorzio Lurambiente SPA, che è quello che attualmente gestisce gli 8 comuni del nostro comprensorio. Anche lui farà ci dirà appunto a che punto sono essendo a cavallo tra la provincia di Varese e la provincia di Como. Noi abbiamo Caronno e Saronno che fanno parte del comprensorio del consorzio. Non si capirà bene come si affronterà questo tema, e magari qualcosa di più ci racconterà lui di questo discorso. Direi subito di dare la parola a Edi Borgianni, che ci racconta appunto a che punto siamo col discorso in provincia di Como. Grazie. Dunque, vabbè, in provincia di Como siamo in un momento di grande divenire e incertezza nello stesso tempo. Abbiamo delle leggi regionali che hanno dato dei tempi, delle scadenze, e in un primo momento, visto anche la coincidenza con i referendum che erano passati, eravamo riusciti a, come dire, ottenere delle proroghe, perché queste scadenze di fatto vanno contro la trasparenza, l'essere al corrente di quello che succede e comunque la gestione pubblica, nel senso che la legge regionale prevede la partenza dell'ufficio d'ambito, la legge nazionale prevede l'abolizione delle assemblee degli ATO, tutta una serie di concatenarsi. E quindi eravamo riusciti, tra l'altro, quando c'è stato il referendum, proprio 2 giorni dopo, c'era una riunione a livello provinciale che doveva far partire questo famoso ufficio d'ambito, che sarebbe un nuovo ente, che deve seguire per la provincia di Como, come previsto dalla legge regionale, la gestione, ma non che deve gestire, deve quindi tenere conto delle esigenze del territorio, delle problematiche del territorio e decidere a quale gestore, a quale entità dare in mano poi la gestione effettiva. Però c'era il problema che questo ufficio d'ambito non è più come era prima, che tutte queste decisioni molto importanti, quindi conoscenza del territorio, mentre finora erano seguiti dall'assemblea di tutti i sindaci del territorio, è seguita solo da 5, diciamo, il consiglio di amministrazione, essendo una società, 5 persone, che rappresentano anche i comuni oltre all'amministrazione provinciale, ma ovviamente sono solo dei rappresentanti in numero molto ridotto e non hanno quell'immediatezza sul territorio. Qui i sindaci erano tenuti, volenti o nolenti, perché qualcuno era un po' nolente, non tutti erano molto disponibili a seguire queste problematiche dell'acqua pubblica. E poi, mentre le assemblee del consorzio, dei sindaci avviene pubblicamente, ovviamente noi stiamo parlando di un ente di diritto privato, quindi i consigli di amministrazione sono blindati, non si sa più cosa viene detto, non viene detto. Eravamo riusciti quindi a ottenere un rinvio, soprattutto visto il risultato del referendum, valutato che forse era meglio a ottobre, però solo che nel frattempo non si è smosso niente, anzi si è visto che nonostante la vittoria del referendum, si tenta comunque ancora di privatizzare l'acqua. Purtroppo abbiamo ottenuto e su questo siamo forti e possiamo cercare di ottenere altre cose, però bisogna continuamente lavorare, stare attenti a tutto quello che succede, tenere monitorato il territorio per impedire che ci venga scippato il referendum, non solo dalle leggi nazionali ma anche dagli accadimenti locali. E attraverso vari lavori e contatti, quello che si è riuscito ad avere, non ancora in modo decisivo, ma diciamo come primo atto, è che i sindaci, riuniti appunto in questo loro consorzio, in una loro riunione, tutti presenti, quindi la maggioranza assoluta, erano presenti più di metà dei comuni, hanno votato che valutato il referendum, valutata la situazione territoriale, tutta una serie di preamboli, la gestione più adatta è una gestione in-house, termine inglese, di costruzione della Corte di Giustizia Europea. Non è una vera gestione pubblica, perché comunque stiamo parlando di una società per azioni, però è quello che più si avvicina alla gestione pubblica, nel senso che non solo gli azionisti possono essere solo gli enti locali, perché altrimenti ci sono altre gestioni che però sono completamente private e agiscono esattamente come dei privati, devono anche avere un controllo analogo, cioè come se fossero loro direttamente a gestire. E non è semplice poi da realizzare. Comunque hanno votato questa soluzione. Nel frattempo anche il consiglio amministrazione, c'è stato un consiglio amministrazione provinciale in cui dovevano decidere di far partire l'ufficio d'ambito non più rinviabile per evitare che si venisse commissariati, e hanno votato l'ufficio d'ambito. Noi a questo punto abbiamo fatto una scelta, pur continuando a dire no, non fate l'ufficio d'ambito, c'è spazio per non farlo, è meglio l'azienda pubblica, non l'in-house, però abbiamo deciso, siccome insomma, di fatto probabilmente quello che ci troveremo sarà questo, come comitato di Como abbiamo deciso comunque di cercare di incidere in queste scelte in modo di avere il più possibile la trasparenza e sapere cosa accade e poter seguire che ci sia almeno una gestione più possibile pubblica, che non sia un carrozzone di posti che vengono assegnati, ma che ci sia veramente una gestione con persone che vengono messe perché sanno quello che fanno e non come posti di scambio o altri come ogni tanto capita. E quindi abbiamo mandato una lettera sia all'amministrazione provinciale, ai sindaci, in cui facevamo presente comunque queste nostre, che le aspettative sono altre, che però vista la situazione abbiamo fatto alcune richieste, tra cui degli emendamenti per quanto riguarda l'ufficio d'ambito, proprio perché altrimenti non si sa più cosa succede, cosa verrà fatto, che gestione verrà fatta, perché è vero che c'è poi questa votazione, sì, la gestione migliore è quella dell'in-house, però non è nello statuto dell'ufficio d'ambito. E quindi comunque ci sono poi tanti modi per applicare le cose, per essere a conoscenza. Alcuni consiglieri hanno raccolto queste nostre richieste e le hanno anche portate avanti. Nel frattempo l'amministrazione provinciale quindi ha votato per far partire l'ufficio d'ambito e ha recepito la decisione dei consigli del consorzio dei comuni per quanto riguarda l'in-house, deve anche essere valutato come fare questo in-house, perché non è assolutamente facile. Ci sono delle proposte che io sono andata a vedere, infatti poi tra l'altro mi ero anche sentita con alcuni consiglieri che hanno fatto presente quali sono i problemi, che sono chiamati in house ma in house non sono, ed è pericolosissimo, perché se viene fatta una cosa di questo tipo poi dà spazio a dei privati interessati a fare dei ricorsi e quindi va a gara. Ripeto, non è che l'in house è la migliore scelta è un'azienda speciale, un'azienda pubblica, tant'è vero che c'è la legge iniziativa popolare. Però se questo è, diciamo, nel momento in cui si perde anche questo, ci troviamo una gestione che viene data in mano per i privati, poi per 20 anni, 30 anni, a meno che non c'è legge che dice che tutto questo viene a decadere, noi andiamo a perderlo. Per cui da questo punto di vista stiamo, diciamo, collaborando per una costruzione che sia più possibile trasparente e più possibile pubblica e che funzioni soprattutto. Quindi sono state fatte queste votazioni, quindi al momento attuale teniamo conto che qua in provincia di Como abbiamo dei privati nelle gestioni attuali, privati in senso non lato come può essere l'in-house contro l'ambiente, ma gestioni con dentro anche società quotate in borsa, abbiamo la CSM che si è unita con l'ABI, abbiamo incontrato la 2A, abbiamo vari tipi di situazioni. Ci sono tantissimi gestori, tipo 28 gestori, più quelli che seguono gli acquedotti, cioè non è una situazione assolutamente facile da rimodulare e da fare, in quanto non è stata elaborata una legge a livello nazionale che tenesse conto dei referendum, perché appunto è questo. Avendo ovviamente, se fosse stata elaborata una legge nazionale, era tutto più semplice, era una legge che stabiliva come comportarsi, come dovevi fare, ed era una situazione più lineare. Non è detto neanche che ci sarà l'in-house, perché appunto questi sono solo i primi passi. Non dobbiamo ancora vedere come andrà avanti, quindi bisognerà continuamente appunto monitorare, stare attenti, fare proposte, seguire. Ovviamente con l'ufficio d'ambito diventa tutto molto più difficile, anche se quello che abbiamo, che già in un primo momento era stata fatta una modifica allo statuto, per cui anche l'ufficio d'ambito era stato previsto un accesso agli atti, quindi di poter vedere le decisioni prese, cosa succede, facendo un'istanza se sei parte interessata, ovviamente anche solo un cittadino è parte interessata, perché riguarda la propria acqua, il proprio poter, la propria sopravvivenza, perché appunto senza acqua non viviamo. E quello che adesso è stato inserito di nuovo nello statuto è che comunque se ci sono delle proposte, delle osservazioni, il consiglio di amministrazione deve valutarle, deve dare audizione a chi chiede di essere sentito. E è stato anche, noi avevamo chiesto che fossero pubbliche i consigli di amministrazione, questo non è passato. Però mentre prima erano non sono pubbliche, punto, ora non sono pubbliche a meno che il consiglio di amministrazione non valuti l'opportunità. È poco, cioè non lo sto dicendo che però è quello che per ora abbiamo avuto, è molto, non è una vittoria. Però le forze sono queste attualmente, siamo in un territorio che è difficile da seguire, lo sapevamo che l'ufficio d'ambito è un pericolo proprio per una gestione pubblica che funzioni. Per cui abbiamo cercato di avere queste aperture. Certo, ora bisognerà continuamente stare più attenti, fare accesso agli ambiti, cioè diventa più complicato, però la possibilità c'è. E anche poi appunto bisogna essere molto propositivi, adesso dovranno decidere a quali persone specialisti dare in mano uno studio dell'in-house, già questo appunto è un passaggio molto delicato, anche questo, e quindi c'è ancora molto lavoro da fare e sulla provincia non bisogna assolutamente distrarsi, né come comitato dire vabbè ormai abbiamo un referendum, no, assolutamente non. La vittoria c'è stata, una vittoria importante che ha fatto capire soprattutto ai nostri amministratori che i cittadini si sono svegliati, hanno capito almeno in un certo spazio che quali sono i propri diritti e ci tengono, perché nel momento in cui vedo che si mandano in giro le mail, si parla dicendo guarda anche adesso, no, c'è un decreto in cui vogliono, anche se per via traverse, privatizzare tutto, molti si arrabbiano di qualsiasi di politica e partito siano, come io ho votato, il mio voto non viene rispettato. Quindi diciamo la nostra forza adesso è questa, perché prima farsi ascoltare, già adesso è difficile, ma prima volta era quasi impossibile. Comunque sanno che dietro c'è poi chi vota, perché questo poi il gioco, non ci siamo solo noi, non sono solo quelle due o tre persone con cui ormai vabbè, ci sono anche nuove facce, no? Per fortuna, altre persone che stanno seguendo, ma dietro abbiamo i cittadini, non siamo soli, veramente rappresentiamo, non siamo solo noi. E quindi comunque il lavoro da fare è ancora tanto, è ancora da seguire e siamo ancora in una situazione molto incerta. Possiamo continuare a puntare sempre più in alto e cercare, cioè non di accontentarci, comunque questo non è questo. Comunque essere pratici perché non si può non essere pratici, però nello stesso tempo non perdere quello a cui abbiamo puntato con il referendum. Quindi l'importante sarebbe riuscire a ottenere una modifica di legge in favore della pubblica, però attualmente stiamo vedendo che invece stanno cercando di nuovo di privatizzarla, a parte poi già un 23 bis più o meno riintrodotto, non per l'acqua ma per i rifiuti e i trasporti locali, anche se il referendum era anche per i trasporti locali e i rifiuti. Quindi adesso speriamo che questo decreto non passi, per come è stato preannunciato. Staremo a vedere, quindi a Como ovviamente risentiamo anche di tutto questo. Scusa, no, volevo solo chiedere, magari tutti non sanno cos'è l'ufficio d'ambito, lato, se magari lo dici. No, è che non volevo tediare, No, mi no, spiaceva, perché a ci volte metto poi si perde il del tempo. filo. L'ambito è lato e l'ambito territoriale ottimale. È un buon concetto di per sé, nel senso che l'acqua non segue gli schemi delle amministrazioni, non ha un territorio che si può delimitare con una squadra prendendo la cartina geografica, ma ci sono un'interazione tra i corsi d'acqua, i laghi, la montagna e come avviene, con cui si crea un territorio che è legato da tutti questi collegamenti proprio dal punto di vista del bacino. Quindi la gestione unica doveva essere su questo territorio che è collegato. Invece quello che ha deciso la legge regionale è che il bacino è quello che coincide, come ha deciso in quasi tutta Italia, tra l'altro, forse mi sembra solo in Piemonte, c'è stata un'eccezione, coincide con l'amministrazione provinciale. Tra l'altro ci troviamo il lago di Como, viene diviso in due, no? In senso longitudinale, per cui abbiamo le sponde da una parte, saranno Como, le sponde dall'altra, saranno Lecco, che non ha senso. Il nostro problema è che casomai l'Alto Lago ha una situazione, la parte di qua non altra, non le sponde di un lato, le sponde dell'altro. Quindi attualmente la coincidenza è peggiorata a livello della legge regionale, che appunto in più ha dato in mano tutto all'amministrazione provinciale, oltretutto adesso che la nostra amministrazione provinciale va a decadere con le prossime elezioni, non ci sarà il rinnovo del Consiglio provinciale, perché con la legge attuale non ci sarà il rinnovo, sarà nominato un commissario, sarà una persona sola che andrà a. Perché la legge ha previsto, me lo sono fatta spiegare dai consiglieri provinciali, perché mi ero persa in questa legge, mi hanno detto non ci sarà perché la nuova legge ha previsto che per intanto deve esserci un commissario che prende, come dire, nozione della provincia e della situazione. Poi una volta che ha preso nozione, tra più o meno un anno ci saranno i vari comuni che nomineranno i loro rappresentanti. Abbiamo detto che è passato, sto No, è stata parlando. ripetuta. Quando? Ancora dicendo. Mi è stato detto Ah, adesso ieri l'hanno questa detto a cosa, Rai 3 che mettevano il commissario. eh? L'hanno detto a Rai 3 che lo mettono il L'hanno detto commissario, sì. adesso però sto E ieri parlando, l'hanno detto. non a Sì. dicembre. Ma però non è mai stata approvata quella Comunque, appunto, dimostrazione ancora di più di quanto siamo in alto mare. Cioè, siamo proprio in una situazione che manca di chiarezza. E manca non si sa dove si va a parare, cosa verrà fatto, perché comunque si tende sempre a non essere trasparenti e a non dare in mano al pubblico in modo che funzioni, stiamo parlando. Quindi comunque lato è questo. L'ambito ottimale prima, lato. C'era comunque l'assemblea dei sindaci che doveva gestire l'ambito e tra l'altro c'era un problema di fondi perché ogni comune doveva darne una parte al all'assemblea, all'ATO, doveva dare una parte dei propri introiti, come c'erano dei fondi che poi arrivavano dalla regione e tutto. Però questi fondi, ad esempio, a Como erano bloccati perché finché non partiva il piano d'ambito non potevano essere distribuiti. A dicembre del 2010 è stato approvato il piano d'ambito, adesso che poi è stata fatta quindi questa riunione in cui è stato deciso che veniva istituito l'ufficio d'ambito, sono stati sbloccati i fondi e i vari comuni hanno presentato le necessità che hanno e verrà deciso a chi darle, a come, perché comunque c'è anche quest'altro fatto. È vero che servono tanti soldi per ristrutturare le reti, però è anche vero che quello che non è stato fatto per 30 anni non deve essere fatto in un anno, ci sono i piani a breve, medio e lungo termine, quindi vuol dire pianificare. E poi vabbè, quello che già si diceva nel referendum, se io lo devo pagare a un privato lo posso pagare anche a un comune, perché tanto i costi se li dobbiamo coprire non è necessario coprirli a un privato che in più ha l'utile. E l'altra dicitura, l'ufficio d'ambito, appunto, l'ufficio d'ambito è previsto dalla legge regionale, che a questo punto come territorio è stato deciso che è quello coincidente con l'amministrazione provinciale, che a seguire a rilevare i problemi del territorio, a decidere che tipo di gestione deve essere data, come darla, chi darla, non sarà più l'assemblea, altro che era stata abolita dalla legge nazionale, assemblea dei sindaci, ma sarà questo ufficio d'ambito che è la chiamano azienda speciale, in cui c'è un consiglio di amministrazione. Questo consiglio di amministrazione è composto da 5 persone, a livello della provincia di Como si è deciso che saranno 4 i rappresentanti dei comuni a secondo da 0 a 10, non ricordo bene la divisione, ma tipo da 0 a 10.000 abitanti un rappresentante, da 10.000 a 30.000 e così via, e una rappresentante dell'amministrazione provinciale. E in più però comunque c'è sempre una valutazione da parte invece non si chiama più assemblea dei sindaci, ma si chiama consorzio, mi sembra, dei sindaci, che dovranno dare pareri su alcune materie. Devo dire che nello statuto dell'ufficio d'ambito di Como questo parere, che deve essere preventivo e vincolato, è stato previsto non solo per 2 materie come prevista la legge regionale, ma per tutte le materie che sono dalla legge regionale, quindi anche per quanto riguarda la gestione, come deve avvenire questa gestione. Però c'è anche qui il nodo che i sindaci di fatto hanno già deciso che la gestione in house, però non era questo parere vincolante, l'ufficio d'ambito non c'era ancora, però d'altra parte non potranno andarlo a ignorare sicuramente, visto anche che c'è una delibera dell'amministrazione provinciale, per cui si entra in un meandro di interpretazione di altro, ma si spera che almeno questo non si perda, pur non ottenendo quello che appunto si è portato sia col referendum sia come comitati. Buonasera a tutti. Allora, riprendendo questo discorso, diciamo che io volevo cercare di comunicare a voi sostanzialmente quello che sta succedendo nell'ambito del nostro territorio. Io sono rappresentante di Loro Ambiente S.p.A., noi siamo l'azienda, l'ente gestore del servizio idrico integrato, quindi acquedotto, fognatura, depurazione, di 8 comuni, 9 con Saronno, perché per loro gestiamo solo la parte di depurazione. Diciamo che, come diceva la signora, i nostri comuni, tra l'altro il nostro ambito, che è un ambito reale perché è un ambito idraulico, deriva proprio dalla conformazione del torrente Lura, siamo interprovinciali, cioè siamo per metà, gran parte la provincia di Como per quanto riguarda 8 comuni della provincia di Como, e per la provincia di Varese gestiamo appunto Saronno per la depurazione, Caronno come acquedotto, fornitura di depurazione, e l'impianto di depurazione è a Caronno per Tusella. Diciamo che allora, essendo interprovinciali, abbiamo a che fare chiaramente con 2 ambiti territoriali ottimali, o adesso gli ambiti territoriali non ci sono più, abbiamo a che fare con 2 uffici d'ambito, che sono queste entità che sono state definite come provinciali, senza tener conto, secondo me, dal punto di vista di quello che è effettivamente l'idraulica e la morfologia del territorio. Vabbè, è stata fatta una valutazione, diciamo, perimetrale, con gli annessi e connessi, appunto, sostanzialmente abbiamo a che fare con due entità e forse la parte che interessa di più a voi è la parte di Varese, diciamo, si è messa un po' prima della parte di Como. A Varese c'è già un cronoprogramma di cose che dovrebbero succedere e molto probabilmente anche Como, forse, può essere, questo non si sa ancora, seguirà questa tipologia di indicazione. Quello che vi posso dire come premessa è che a Varese hanno già l'ufficio d'ambito ha già dato un cronoprogramma per cui entro marzo si andrà a formare un'azienda che si chiamerà Varese Acque, a cui sostanzialmente entro la fine del 2012 dovranno confluire tutti i rami d'azienda dei vari, e sono tanti anche a Varese, adesso lei ha citato un numero per Como, ma a Varese saranno altrettanti se non di più, sostanzialmente tutti i rami d'azienda di questi enti gestori che ci sono adesso, e sostanzialmente si arriverà a questa Varese Acque che dovrà gestire tutta la parte del servizio idrico integrato per la provincia di Varese, con una gestione in house, ovvero sostanzialmente loro hanno già deciso che a Varese Acque, cioè che l'ufficio d'ambito ha già deciso che darà in house a questa azienda che sarà totalmente partecipata dai comuni, ok? Per cui i comuni dovranno aderire a, cioè sostanzialmente formeranno questa azienda e sarà un'azienda in house gestita pubblicamente. Questo per dire quello che Varese ha già mandato fuori sul sito della provincia di Varese, c'è già questo cronoprogramma, quindi non è niente di, non è una notizia, è una cosa reale che tutti potete andare a verificare, e sostanzialmente si può pensare che anche Como, visto quello che stava dicendo anche la signora, che è sicuramente molto più addentro di me in questa situazione anche dal punto di vista normativo, sebbene sia un gran casino, scusate il termine, sembrerebbe che potrebbe essere questa la strada. Con il che noi come Lura Ambiente, la verità è che noi gestiamo da 2001 la gestione idrica integrata di tutti questi 8 comuni, nel bene o nel male, penso che siamo abbastanza apprezzati almeno da quelli che sono i feedback che ci sono dai vari comuni. Adesso al netto di questa cosa qua, la verità è che anche come personale chiaramente abbiamo chiesto un attimino come finiremo, cosa succederà, se qualcuno c'ha qualche idea, e gli stessi nostri dirigenti tra virgolette in questo momento sono in balia di quello che sta succedendo, nel senso che stanno aspettando di capire anche loro che cosa potrà succedere. Sicuramente è stato confermato chiaramente che il personale verrà assorbito, però non si sa se il personale verrà assorbito per metà da Como, per metà da Varese, tutto da Varese, che partiranno per primi, tutto a Como, che magari partono prima di Varese perché si muovono da adesso velocemente, non lo so. Quello che succederà è che molto probabilmente, sicuramente non ci sarà più la Lura Ambiente, sicuramente questo dico a voi come cittadini di Lomazzo o dei comuni limitrofi che magari afferite a questo ente e che avete come riferimento noi, non ci sarà più Lura Ambiente, probabilmente ci saremo noi sotto altre vesti, sotto il nome di un'altra azienda che si spera continueremo a fare quello che facciamo nel territorio, perché è una cosa che fondamentalmente credo che ci piace, che in linea di massima penso che facciamo anche benino. Basta, penso che questa sia l'indicazione generale di quello che succede nel nostro territorio. Posso passare la parola. Grazie. Io ce l'ho già questa cosa qua. Mi hanno apprezzato prima. Sì, si sente, sì. Intanto buonasera a tutte e tutti e grazie dell'invito. Non so, io vorrei dare un po' più di coraggio perché ho l'impressione che siamo un po'... Cioè, abbiamo vinto il referendum, nel senso. Proviamo a capire meglio cosa è successo col referendum, perché la mia impressione... Diciamo, uno dei motivi per cui io ho anche scritto il libro è perché la mia impressione è che anche in molti attivi... Sentite bene voi, perché io sento... L'importante è che sentite bene voi, perché a me sembra che... Uno dei motivi per cui ho scritto il libro è che la mia impressione anche, soprattutto per gli attivisti, cioè quelli che si sono più impegnati sulla battaglia dell'acqua e del referendum, è che abbiano in mente che il referendum sia stato una cosa inconoscibile, incomprensibile, cioè una sorta di miracolo, no? E quindi come tutti i miracoli, poco spiegabile, soprattutto irripetibile. E che anzi ci sia stata quasi una sorta di rassicurazione nel tornare a una situazione in cui i poteri forti mostrano la faccia dura e noi torniamo a essere sostanzialmente una minoranza generosa, che ha molte ragioni, ma soprattutto una minoranza. Cioè, come se ci fossimo in parte spaventati di essere diventati maggioranza del paese. Siccome io penso che invece il referendum abbia segnalato due o tre elementi di svolta, comincio da qui. Cioè, a mio avviso ci sono delle cose che il referendum ci ha detto, di cui noi forse non abbiamo totale consapevolezza, ma che ci consentono di dire che niente sarà più come prima. Niente sarà più come prima non vuol dire che quindi tutto va liscio, come potete ben vedere anche dal governo attuale, ma che il referendum ha significato un cambiamento profondo dentro la società, che come tale segnala che alcuni passaggi che prima consideravamo normali, oggi non lo sono più. Primo elemento, per la prima volta dopo 30 anni la maggioranza assoluta del popolo italiano ha sconfitto le politiche liberiste, cioè ha sconfitto quelle politiche che per 30 anni ci hanno detto che tutto, l'intera vita delle persone doveva essere consegnata alle leggi del mercato. Guardate bene che questa filosofia, cominciata 30 anni fa, per moltissimo tempo ha avuto il consenso sociale. Noi sì siamo stati per anni minoranza culturale del paese. Per quasi 30 anni ci hanno detto privato è bello, per quasi 30 anni ci hanno detto privato è efficiente, per quasi 30 anni ci hanno detto la liberalizzazione, come la chiamano loro, perché si fa fatica a dire privatizzazione, se no è troppo chiaro per voi cosa vuol dire. Privare e sottrarre, no? Se dico liberalizzare, uno pensa alla libertà e dice oh, che bella parola positiva. Ma in realtà si tratta di privatizzare. La privatizzazione avrebbe portato servizi migliori, meno costi, eccetera, eccetera. Bene, per la prima volta dopo 30 anni, la maggioranza assoluta delle donne e degli uomini di questo paese ha detto non ci credo più. Attenzione, non sono 27 milioni di donne antiliberisti o antiliberiste. Figuriamoci se sono anticapitalisti o anticapitalisti. Io non sto immaginando che fuori c'è l'insurrezione delle masse pronta, no? Ma sono 27 milioni di persone che hanno rotto la catena culturale che li legava a questa idea malsana che tutto doveva essere gestito al mercato. Vuol dire che fuori di qui ci sono 27 milioni di persone permeabili, curiose, che non credono più a quella storia e che cominciano quindi a interrogarsi, a provare a capire meglio cosa sta succedendo. Scusate, posso spegnerlo che mi dà... Vuol dire che fuori di qui ci sono 27 milioni di persone che non stanno più in quella gabbia culturale. Lo dico perché sennò noi abbiamo partecipato a un'esperienza di mobilitazione straordinaria dal basso e poi, passata quella, ragioniamo come se fossimo ancora noi i soliti, no? Gli incalliti militanti, i martiri delle cause ideali che devono confrontarsi col mondo intero. Ogni giorno, quando voi uscite per strada, che ci crediate o no, uno su due di quelli che incontrate ha votato sì al referendum. Uno su due di quelli che incrociate sull'autobus al bar, anche se voi guardandoli dite non è possibile, invece è successo. Il problema è che noi guardiamo con gli occhi sbagliati, non che sono fatti male gli altri. Cioè la partita con il referendum è diventata una partita della società, non di piccole per quanto generose minoranze. Secondo elemento, noi abbiamo vinto il referendum contro il modello di informazione televisiva. Guardate che questa è una cosa che è straordinaria da un certo punto di vista. Se ci pensate bene, noi abbiamo vinto il referendum perché abbiamo messo insieme due modi temporalmente molto distanti fra loro di fare politica, ma accomunate da un elemento che entrambi hanno. Il primo modo è quello del fare politica degli anni 60 e 70 del secolo scorso. Noi abbiamo vinto il referendum perché siamo andati nei mercati, nelle piazze, a contatto diretto con la gente, abbiamo comunicato direttamente, abbiamo utilizzato la comunicazione orizzontale. Contemporaneamente abbiamo utilizzato un modo molto contemporaneo, quello delle reti e dei social network, che anche quello ha come elemento comune la comunicazione orizzontale. Se ci pensate bene, chi è uscito sconfitto dal referendum è esattamente il periodo che sta in mezzo, quello dove la comunicazione e l'informazione non era orizzontale ma era verticale, arrivava dall'alto verso il basso, era la televisione che ci dava l'informazione e che ci chiedeva la passivizzazione. Il massimo di partecipazione possibile era fare i tifosi del talk show. Per cui io pensavo di essere di sinistra perché guardavo Anno Zero e quando ero lì mi appassionavo. Il referendum ha detto no, c'è un altro modo. C'è un altro modo di partecipare. E si è costruita quella partecipazione. Guardate che Berlusconi, quando, il 13 di giugno, ha detto abbiamo perso il referendum perché ho sbagliato a comunicare. Fate attenzione che Berlusconi che dice che ha sbagliato a comunicare sta dicendo che non è più. Perché cos'è stato Berlusconi se non una straordinaria egemonia comunicativa che ha plasmato i comportamenti individuali e collettivi di due generazioni? Cioè non è un aspetto secondario. Berlusconi che dice io non so comunicare dice che è evaporato, che non c'è più. E forse uno degli elementi che poi ha portato alla caduta di Berlusconi sta anche dentro questa cosa, che è cambiata, che è cambiato il modo di comunicare dentro la società, per cui la televisione non ha avuto più la presa che per anni invece aveva avuto su di noi e su tutti quanti. Terzo elemento, il referendum ha messo a nudo quella che io credo sia una crisi, io penso irreversibile, della democrazia rappresentativa. Cioè di questa idea che in tempi passati aveva un suo filo rosso logico, cioè penso a, fino alla, alla seconda metà del secolo scorso, il fatto che la società esprimesse dei bisogni, che questi venissero rappresentati socialmente, per esempio dalle organizzazioni sindacali o da grandi associazioni culturali, e che trovassero poi una rappresentanza politica nei grandi partiti di massa, aveva un suo significato. Ovviamente la società è cambiato il ruolo dei partiti, è cambiato il ruolo dei sindacati, è cambiato la vita quotidiana, la produzione quotidiana. Oggi io penso che per esempio il referendum dimostri che le persone si attivano e partecipano non più seguendo quel filo rosso lì. Cioè, durante la campagna referendaria, ma tutta la storia del movimento dell'acqua, abbiamo assistito a un protagonismo diretto delle persone dal basso che indipendentemente dalla loro collocazione politica in quel momento, dalla loro storia, dalla loro cultura, hanno condiviso degli obiettivi e su quelli si sono mossi di comune accordo dentro tutti i territori in maniera diffusissima, partecipando direttamente a tutti i passaggi. Vi do alcuni dati. Hanno votato sì al referendum il 67% dei ragazzi dai 18 ai 25 anni. Io ci tengo molto questo dato perché finalmente fa piazza pulita di tutti i nostri stereotipi sui giovani. Io lo so come siamo fatti, almeno so come sono fatto io, conosco molti della mia età, che ogni volta diciamo noi ci impegniamo, ma i giovani. Bene, la categoria anagrafica che ha votato di più è quella dei 18 ai 25 anni, 67%. Io penso che questo dovrebbe costituire, diciamo, una lezione per noi, diciamocelo chiaro, quando chi ha almeno la mia età parla male dei giovani, ne parla male solo perché sono giovani. Noi dovremmo fare pace con questa cosa e prendere atto che i giovani comunicano, si incontrano, pensano in modi differenti dai nostri, ma che poi sulle cose fondamentali sanno come muoversi e stanno dentro le vicende, il referendum l'ha dimostrato. Secondo elemento, ha votato ovviamente la stragrande maggioranza del cosiddetto elettorato di centrosinistra, ma ha votato sì il 42% degli elettori della Lega e il 27% degli elettori di Forza Italia. Che significa questo? Significa per esempio che tutta la battaglia per l'acqua, una delle grandi risorse del movimento dell'acqua, è stato quello di avere chiarito a tutti che era una battaglia molto più dal basso verso l'alto che non il solito chiacchiericcio politicista tra centrodestra e centrosinistra. Anche perché, per parlarci chiaro, centrodestra e centrosinistra nella storia di questo paese sono entrambi responsabili di tutti i processi di privatizzazione avvenuti sull'acqua, sui servizi pubblici locali, eccetera, eccetera. La Toscana è stata la prima regione che ha privatizzato l'acqua, tanto per chiarirci che il vecchio schema centrodestra-centrosinistra non c'entra con questa questione e la gente l'ha capito, tanto è vero che tantissimi elettori che magari provenivano da culture diverse da quelle dei promotori del referendum e però hanno votato, in grande maggioranza, la Lega Nord il 42%, è un dato straordinario. Ha votato al referendum il 25% dei cosiddetti astensionisti cronici, cioè quelli che per ideologia o per rassegnazione sono anni che non votano più. Vuol dire che il protagonismo che abbiamo messo in campo in tutto il territorio è riuscito a coinvolgere anche fasce sociali che per motivi, diciamo, ideologici oppure per rassegnazione avevano smesso di considerare il voto e lo strumento del referendum come strumenti di possibile cambiamento. E questa volta uno su quattro di loro ha partecipato e ha votato ai referendum sull'acqua. Il 16% di tutti quelli che hanno votato ha dichiarato di avere contribuito attivamente alla campagna referendaria, dove, diciamo, l'elemento minimo era: ho distribuito volantini nel mio condominio. Rapido calcolo, vuol dire che hanno partecipato attivamente alla campagna referendaria 4.200.000 persone. È un esercito, tra virgolette, straordinario. Lo dico perché impariamo che fuori di qui c'è un mondo. Il referendum l'ha dimostrato, che non siamo solo noi con i nostri difetti di osservazione, ma che il referendum ha dimostrato che molte delle cose che noi davamo per scontate invece si sono rimesse in gioco, si sono rimesse in movimento. Fuori la gente ha smesso di credere a una favola. Qual è la favola che ci hanno raccontato? Questa favola ce l'hanno raccontata 40 anni fa. Grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, pensate come è cambiato il campo della comunicazione, pensate come è cambiato il campo dell'informatica, pensate al campo dei trasporti. Grazie a una serie di innovazioni tecnologiche straordinarie che sono avvenute sul pianeta, qualcuno 40 anni fa ha detto: benissimo, grazie a questa rivoluzione tecnologica noi possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. E se eliminiamo tutti i lacci e lacciuoli, cioè i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i diritti, tutti i figli di una storia sconfitta, ricordate che negli anni 70, fino agli anni 70 c'era la guerra fredda, no? E allora l'idea dei diritti, eccetera, era un po' assimilata a tutto quello che una volta si chiamavano i cosiddetti paesi del socialismo reale. Quando arriva la rivoluzione tecnologica, quei regimi cadono e qualcuno dice: bene, se togliamo anche tutti quegli elementi, i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i diritti, e permettiamo al mercato di dispiegarsi liberamente, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che non eliminerà le diseguaglianze sociali, ma a cascata produrrà benessere per tutti. Questa è la favola liberista che ci hanno raccontato 40 anni fa. Quella favola liberista si è inceppata già alla fine degli anni 80. Perché si è inceppata? Perché invece che produrre benessere a cascata per tutti, quella favola ha prodotto la più grande diseguaglianza sociale dentro il pianeta da che la storia dell'umanità è cominciata. Cioè la differenza fra ricchi e poveri su questo pianeta non è mai stata così ampia come negli ultimi 30 anni. E questo ha comportato un impasse di quel modello. Cos'è questo impasse? L'impasse è dettato dal fatto che il pianeta è sostanzialmente diviso in due. Una parte, la maggioranza, è sostanzialmente fuori mercato, cioè è stata talmente depredata e impoverita che non può comprare più nulla. Attenzione, quando io dico uno diviso in due, non è il classico nord-sud, eh? Ogni nord c'è il suo sud. La Cina che cresce non è 1.300.000.000 di cinesi che crescono, è un terzo, un quarto di quella società che diventa classe media e medio-alta, e il resto che precipita nella miseria più nera. Allora, questa grande maggioranza è fuori mercato, non può comprare più nulla. Contemporaneamente esiste un'altra parte, una minoranza nel pianeta, che è quella a cui noi apparteniamo con diverse stratificazioni sociali all'interno, che è quella che può comprare, ma nel frattempo ha comprato tutto. Perché io posso, con gli incentivi dei governi di centrodestra e centrosinistra alla rottamazione, convincervi che la vostra automobile la dovete cambiare ogni 2 anni, ma nessuno di voi può comprare 10 automobili a testa. Io posso convincervi con i miliardi della pubblicità, in particolare i più giovani, che il telefonino che hanno in tasca in questo momento tra un mese è obsoleto perché è uscito il nuovo modello che ha nuovi gadget, eccetera, eccetera. Ma nessuno può comprare 10 telefonini a testa, cioè c'è un momento in cui ci si approssima alla saturazione di merci comprate. Normalmente quando un mercato è saturo io ne apro un altro. Ma se quell'altra parte io l'ho talmente impoverita che non può comprare più nulla, io mi trovo in impasse. Questo è quello che è avvenuto alla fine degli anni Ottanta. Come ha risposto il modello che è basato sul profitto? Aprendo la voragine della finanza. La finanziarizzazione non ha provocato la crisi. La finanziarizzazione ha posticipato la crisi di 25 anni. Cioè la crisi in cui noi siamo immersi oggi è la crisi di 25 anni prima, che grazie alla finanziarizzazione questo modello ha potuto posticipare di 25 anni. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che se io non posso più vendere automobili, non posso più vendere cellulari, perché chi può comprare li ha già comprato quasi tutto e chi dovrebbe comprare non ha i soldi per comprare, io apro la strada della produzione di profitti non più attraverso la vendita di beni, ma attraverso la vendita di denaro. E a quel punto spalanco le porte alla finanza. Comincio a dire che i capitali finanziari sono liberi di girare il pianeta, che non devono avere nessun controllo. Nello stesso tempo però ogni paese continua a avere le sue politiche fiscali, le sue politiche sociali, le sue politiche del lavoro. E allora cosa fanno questi capitali? Girano finché non trovano il paese più favorevole. Qual è il paese più favorevole? Quello che abbassa drasticamente le tasse sui capitali, quello che abbassa drasticamente il costo del lavoro, quello che abbassa drasticamente tutti i vincoli sociali e ambientali, in modo da attrarre più capitali possibili. Allora cosa succede? Succede che i paesi cominciano a fare a gara. Inizia il dumping sociale. Siccome i capitali continuano a girare, anzi possono venire da noi 3 anni, poi vanno in Serbia e poi dalla Serbia vanno da un'altra parte, io devo abbassare sempre di più la tassazione sui capitali per attrarre o per non perdere i capitali che ho all'interno. E si apre insieme a questo tutto il sistema della cosiddetta finanza non regolamentata. Vi do solo 2 dati. L'insieme dei volumi di commercio di beni in un anno è pari a 10.000 miliardi di dollari. Cioè il fatto che io vendo un bicchiere, compro una penna, l'insieme di tutto questo in tutto il pianeta sono 10.000 miliardi di dollari l'anno. 10.000 miliardi di dollari nei mercati finanziari si fanno in 3 giorni. La parte non regolamentata dei mercati finanziari, non regolamentata vuol dire quella che non passa per le borse. A me fa già sorridere pensare che quella che nelle borse è regolamentata. Ma esiste una parte che non è regolamentata, si chiama over the counter. L'insieme di tutta quella parte lì è pari a 12 volte il PIL mondiale. Cioè voi prendete tutta la produzione mondiale, ne calcolate il valore in denaro, 12 volte quel valore è quello che gira nei mercati finanziari non regolamentati. Tutto questo ha permesso a quella crisi lì di non diventare crisi drammatica alla fine degli anni Ottanta e di far finta che esisteva di nuovo il paese dei Bengodi, che la favola poteva continuare fino al 2005. 2006, 2007, 2008. Oggi casca anche quella favola, ma quel modello deve continuare a fare soldi. Finita anche la porta finanziaria, finita per modo di dire, ma diciamo entrata in crisi, io devo tornare a vendere qualcosa. O però, quelli là non possono comprare nulla, voi avete già comprato tutto, da loro non posso tornare perché non possono comprare nulla, devo tornare da voi. Ma se voi avete già comprato tutto, che cosa comincio a vendervi? Se io comincio a dire che l'istruzione non è più un diritto ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi non studierà, ma chi può permettersi di pagare pagherà per poter avere l'istruzione. Se io comincio a dire che la salute non è più un diritto ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi morirà perché si curerà in ritardo, ma chi può permetterselo pagherà per poter avere la salute. Se io comincio a dire che l'acqua non è più di tutti, ma è un bene economico, ho fatto bingo, perché per farvi comprare l'automobile, per farvi comprare il cellulare, io devo spendere miliardi in pubblicità. Io non ho nessun bisogno di pubblicità per farvi consumare acqua, voi siete semplicemente necessitati a farlo tutti i giorni per sempre. Casomai la pubblicità la utilizzo per farvi comprare l'acqua minerale, che lì ci guadagno 1000 volte tanto. Ma voi ogni giorno che vi alzate consumate acqua, se quell'acqua è mia, io ho un business garantito. Anzi, ho un mercato di quelli che gli economisti chiamano a domanda rigida, perché indipendentemente da come va la costa crociere, dagli tsunami, dagli svolazzi dei mercati finanziari, voi tutti i giorni consumate acqua. Se io sono il padrone di quell'acqua, io ho un mercato periodico, certo, garantito e con liquidità periodica. Ho moneta contante che mi arriva dalle vostre bollette. Questo è il motivo per cui l'acqua è sotto attacco, i beni comuni sono sotto attacco. Perché? Perché abbiamo di fronte un modello che o lo dichiariamo insostenibile, strutturalmente insostenibile, perché oramai è in piena crisi economico-finanziaria, in piena crisi sociale, è in piena crisi ecologica, e non apriamo quel ragionamento, ma ci capiamo perché sappiamo già cosa vuol dire. Allora o dichiariamo che questo modello non sta più in piedi, oppure se vogliamo tenere questo modello, noi dobbiamo sapere che questo modello, per poter proseguire, deve necessariamente abbassare tutti i diritti del lavoro e mettere sul mercato l'intera vita delle persone. Non c'è altra possibilità se non quella di invertire la rotta. Il referendum ha invertito la rotta. Che favola ci hanno raccontato allora? Ci hanno raccontato una nuova favola. Hanno smesso di dire che privato è bello, eh? Hanno capito che non siamo più d'accordo. Hanno capito che quella favola lì non funziona più. Ce ne raccontano un'altra. Che favola ci stanno raccontando? Ci stanno raccontando come se noi fossimo nell'antica Grecia. Voi sapete che nell'antica Grecia esistevano gli dei dell'Olimpo, che non vivevano insieme agli umani, ma che ne determinavano i comportamenti. Bene, ci stanno raccontando che siamo di nuovo nell'Olimpo. Esistono delle divinità distaccate da noi, non conoscibili, non avvicinabili, che si chiamano mercati. Questi mercati sono degli enti strani che però provano emozioni. Infatti ogni giorno ci informano che i mercati si entusiasmano, si incolleriscono, entrano in fibrillazione, sono soddisfatti, no? Come gli dei dell'Olimpo, le loro emozioni comporta che noi un comportamento adeguato da parte nostra. E cioè di fronte a dei che sono in turbinio, che cosa devono fare gli umani? Sacrifici. Sacrifici per mitigarne la collera o per ricercarne la benevolenza. Cioè ci stanno dicendo, va bene, voi non pensate più che privato è bello. Avete fatto un referendum, va bene. Quindi la pensate diversamente da noi, non c'è problema. Ma gli dei dell'Olimpo dicono che se anche privato non è più bello, privato è obbligatorio, è ineluttabile. Vi dovete rassegnare. La democrazia non è più l'elemento prioritario che determina il legame sociale fra le persone. Se i mercati hanno fretta, la democrazia può essere sospesa. Pensate alla Grecia, no? Con il cappio al collo, Papa Andreu un giorno ha detto facciamo un referendum. In mezza giornata ha ritirato la proposta, è caduto il governo, hanno fatto un governo di unità nazionale e oggi governa l'ex vicepresidente della BCE in Grecia. In Italia non l'ha fatta così veloce, ma è successa la stessa cosa. Attenzione che il governo che è in campo adesso è un governo costituente, perché non è la grande coalizione. Che ci provino il mio omonimo Bersani, Berlusconi e Casini a far finta che loro stanno governando qualcosa, non è così. La grande coalizione è quella che succede in Germania, dove due grandi partiti decidono di mettersi insieme per un programma di governo. Quello che è successo in Italia è che un pezzo di Europa, un pezzo dei mercati, ha deciso di governare direttamente questo paese. Poi ha chiamato i grandi partiti e gli ha detto prendere o lasciare. Anzi, gli ha detto prendere e basta. E loro hanno preso. Attenzione che questa cosa qui ha qualche elemento di pericolosità. Per esempio, il fatto che la democrazia è sospesa. Come vogliamo chiamare tutto quello che è successo dopo il referendum? Ha cominciato il governo Berlusconi. Il 21 luglio il Presidente della Repubblica dice queste leggi sono abrogate. Non passano 20 giorni che il governo Berlusconi fa la prima manovra, sempre perché c'erano gli dei dell'Olimpo e sono cominciati subito dopo. Fa la prima manovra, articolo 4 dice: per tutti i servizi pubblici locali, escluso servizio idrico, rifacciamo l'articolo 23 bis. Guardate la fotocopia, eh? Non si sono nemmeno peritati di cambiare qualche frase, di mettere un corsivo, qualche grassetto, no, no, proprio identico. Addirittura nella lettera di risposta alla BCE hanno pure citato l'articolo 23 bis, dicendo l'articolo 4 ripropone in sostanza l'articolo 23 bis, che era sparito, non esisteva nemmeno più perché l'avevamo abrogato. Bontà loro, hanno detto esclusi i servizi idrici. Erano passati 20 giorni, anche chi ha un pelo sullo stomaco da qui fino alla finestra, un attimo, no? E poi però cosa fanno? Aggiungono anche una cosa, dicono: cari enti locali, se voi vendete i servizi pubblici, cioè se li mettete sul mercato, quello che guadagnate da questa messa sul mercato lo potete spendere e non entra nel patto di stabilità. Tradotto cosa vuol dire? Vuol dire che enti locali strangolati domani vi diranno: volete l'asilo nido? Devo vendere il trasporto pubblico. Se mi impedite di vendere il trasporto pubblico, io dirò in giro che voi non volete l'asilo nido. Questo è in buona sostanza quello che deve succedere. Poi il governo Berlusconi, prima di andarsene, legge di stabilità, ha rafforzato questa cosa e ha detto: siccome mi corre voce che gli enti locali non sono tanto contenti di queste cose, bene, io dico che devono fare tutto questo entro il 31 di marzo, altrimenti vengono commissariati fino alla decadenza, in modo che sia chiaro qual è il ruolo degli enti locali. Il governo Monti arriva, ci libera dal grande demonio e la prima cosa che dice è: porteremo avanti esattamente tutte le leggi del grande demonio. La prima cosa che ha detto all'Europa è: nel campo delle liberalizzazioni noi faremo esattamente tutto quello che ha detto il governo Berlusconi. Poi, siccome non si può copiare e basta, il governo Monti ci ha aggiunto un'altra cosa. Che cosa ha aggiunto? Quello che va in discussione adesso. Ha aggiunto un altro articolo che apparentemente non parla dell'acqua. Diciamo, Monti è un po' più furbo, mentre gli altri l'hanno fatta un po' grossa, insomma, no? Sia col decreto Ronchi, che hanno detto privatizziamo l'acqua e si sono ritrovati un referendum, no? Cioè immaginavano di poter governare la società, insomma, a colpi di annuncio. Il governo Monti è un po' più furbo, ha capito che governa la società a colpi di mazzate, però le mette, diciamo, ognuno al punto giusto. Qual è l'esito del referendum, così capiamo l'intervento che vuole fare il governo Monti? L'esito del referendum, questo lo dico perché anche nei territori si abbia più coraggio, perché gli italiani quando votano equivale a quando il Parlamento emana una legge. Questo va ricordato agli avversari, perché noi abbiamo assistito per mesi a istituzioni, sindaci, gestori, presidenti degli ATO, che pensano che noi abbiamo fatto una manifestazione nazionale, non un referendum, cioè che abbiamo espresso un disagio che va interpretato. Io ho trovato persone, addirittura c'è un atto, l'atto di Viterbo, che ha scritto, quando noi gli abbiamo detto ti diffidiamo dal continuare a fare tariffe che non tengono conto dell'esito referendario, ci ha risposto dicendo che gli italiani hanno votato sì ai referendum, ma non si sono resi conto delle conseguenze, su carta intestata dell'atto. Ma senza arrivare a follie di quel genere, tutti giocano come se il referendum non fosse ancora stato fatto. L'altro giorno mi hanno chiamato a un dibattito, una radio di Piacenza, c'ero io e c'era uno del ministero di Catricalà, non lui. E quello mi diceva: no, perché se il pubblico non funziona ci vuole il privato. Io a un certo punto gli ho detto: ma scusi, ma che data siamo? Perché questo dibattito l'abbiamo già fatto prima del referendum. Cioè non è che noi adesso dobbiamo ancora convincere che è meglio il pubblico, che il privato non funziona. Quella discussione è già stata fatta, gli italiani hanno votato. Quando gli italiani votano, così come quando il governo emana, il Parlamento promulga una legge, bisogna eseguire. Altrimenti domani al decreto Monti io dirò: vabbè, il decreto Monti ha fatto, cioè Monti ha fatto un decreto, però va interpretato. Però non si è reso conto delle conseguenze. Però arriverà un'altra norma, quindi per il momento noi ci teniamo quello che ci pare. Com'è possibile che sul voto del popolo italiano si possano dire queste cose? O soprattutto che si ricominci la discussione. giusta o sbagliata che fosse, il popolo italiano ha votato. Quindi ai sindaci bisogna dirgli, cari signori, dovete eseguire. La cosa incredibile di questo paese è che dobbiamo fare mozioni, far approvare mozioni. L'altro giorno mi hanno detto, grande successo, sempre a Piacenza. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che impegna il sindaco a rispettare il referendum. Capite dove siamo arrivati? Cioè noi dobbiamo fare delle mozioni che impegnano i sindaci a fare quello che la legge gli dice da sempre. È come se domani facessimo una mozione in cui diciamo si impegnano i cittadini italiani a non rapinare le banche e facciamo una mozione. C'è già la legge che dice che non vanno rapinate le banche, no? E c'è già la legge che dice che un referendum va realizzato. Si può realizzare, qui correggo un po' l'intervento che facevi tu, la legge nazionale, c'è una legge di iniziativa popolare, non è necessaria. Perché se noi prendiamo le due sentenze della Corte Costituzionale con le quali la Corte ha ammesso i nostri quesiti, la Corte Costituzionale ci ha fatto un regalo gigantesco. Noi dovremmo portarci quelle due sentenze nel taschino e ogni volta che c'è qualcuno che dice ma veramente, gli si fa leggere cosa dice la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice, con il primo quesito, quello che ha abrogato l'articolo 23 bis, primo, non rientra, non c'è riviviscenza di nessuna norma precedente, cioè l'Italia non ha più leggi nazionali che riguardino il servizio idrico e i servizi pubblici locali. Poi il governo Berlusconi ha rifatto una legge sui servizi pubblici locali, ma non sul servizio idrico. Quindi il servizio idrico ad oggi non ha una legge nazionale. Ma la Corte Costituzionale dice quindi vale, è pienamente in vigore, la dottrina comunitaria. Cosa dice la dottrina comunitaria? Dice che ogni Stato membro e le relative articolazioni, cioè gli enti locali nel nostro caso, possono decidere qualsiasi tipo di gestione, cioè possono privatizzare il servizio, fare la società mista pubblico-privato, fare la SPA totale capitale pubblico o gestire direttamente il servizio attraverso enti di diritto pubblico. L'azienda speciale che non è quella dell'autorità d'ambito vostra, piuttosto che il consorzio, eccetera, eccetera. Cioè ci sono tutte le possibilità. Cosa significa questo? Significa che oggi qualsiasi comune può fare immediatamente la gestione diretta attraverso enti di diritto pubblico, senza bisogno di nessuna legge nazionale. E per il momento speriamo che non facciano leggi nazionali, perché sappiamo che se le facessero andrebbero esattamente in altra direzione. E uno dice, vabbè, cos'è cambiato quindi con il referendum? Tanto è cambiato che si può fare, gestire il servizio idrico con enti di diritto pubblico che prima non era possibile. Secondo, c'è il secondo quesito, che dice, tu puoi fare, privatizzare la SPA mista, la SPA pubblica, l'ente di diritto pubblico, qualsiasi cosa scegli, la gestione non deve avere profitti. Se io li metto insieme, essendo che la SPA di qualsiasi tipo ha come unico scopo la produzione di profitti, è evidente che se non ci devono essere profitti, l'unica gestione conseguente è quella attraverso enti di diritto pubblico. La Corte Costituzionale interviene anche sul secondo quesito e dice la tariffa che pagano i cittadini ha tre voci. La prima sono i costi operativi, chiaro cosa sono, no? Tutti i costi del servizio. La seconda è la voce dell'ammortamento dei mutui, cioè se io faccio degli investimenti, è chiaro che se io decido di fare 100 milioni di investimenti in 10 anni, non ve li carico in tariffa l'anno con cui li ho contratti, ma li spalmo sulla tariffa in modo che rientrano anche i costi degli investimenti. Poi c'è una terza voce che si chiama adeguata remunerazione del capitale investito. Trattasi di profitto puro. La Corte Costituzionale dice, abrogando quella parte lì, primo, il servizio non ha nessun elemento di disfunzionamento. Perché? Perché tutti i costi del servizio continuano a essere coperti dalla tariffa. Gli utili sono qualcosa che non c'entra con i costi. Secondo, togliendo quella parte, la tariffa è immediatamente applicabile. Cioè non serve una nuova norma, non serve che mettiamo i comitati di esperti a capire cosa bisogna fare, c'erano tre voci, se se ne toglie una, basta sommare le altre due, quindi qualsiasi bambino in prima elementare che fa un'operazione più, o meglio meno, cioè toglie la terza parte, sa come si fa a calcolare la tariffa. Che cosa sta succedendo in questo paese? Che nessuno sta applicando anche il secondo quesito referendario. Cioè le bollette che voi ricevete continuano ad avere al proprio interno l'adeguata remunerazione del capitale investito. E ogni atto sta dicendo, da chi non si è reso conto delle conseguenze, siamo in attesa della nuova legge, stiamo accantonando quei soldi in un fondo in attesa di capire cosa deve essere fatto, chissà cosa mai deve essere fatto, forse vanno restituiti, no? Cioè siamo in una situazione in cui c'è un sistematico tentativo di dirci che la democrazia casomai è un'espressione ideale e un sondaggio fra cittadini che non ha nessuna conseguenza. Cioè va bene che avete votato un referendum, ma oggi la crisi economica, la crisi dei mercati finanziari dice che quello che voi dite non si può fare. Allora su questo noi dobbiamo decidere se ci stiamo a questa idea, una volta sconfitto che il privato è bello, se ci stiamo all'idea che il privato è ineluttabile. Io credo che noi dobbiamo uscire dalla rassegnazione. Credo che dobbiamo cominciare a dire, attenzione, non considerandoci i proprietari del voto, io vi ricordo sempre, il voto è di 27 milioni di persone. Noi siamo i custodi. Ogni custode non è il proprietario del luogo che custodisce, ma ne ha cura, lo manutiene, cerca di realizzarlo, ma ha sempre in mente che quel voto noi non siamo il partito dell'acqua che va a trattare con le amministrazioni. Noi andiamo a discutere con tutti, ricordando sempre a tutti che noi non siamo i proprietari del voto. E quindi non è che possiamo andare a dire che ci va bene una negoziazione. Noi siamo lì per dire c'è stato un voto, scusate, quanto tempo ci mettete ad adeguarvi a quel voto? Punto. E siccome questo non succede, allora bisogna che cominciamo a rimettere in campo la battaglia. Prima battaglia, veramente un po' più di coraggio in Lombardia, perché che significa, io capisco, figurati, anche immaginando gli interlocutori, fino a 3 anni fa abitavo in Lombardia, quindi non che a Roma ci siano interlocutori migliori, ma capisco che di fronte, chi abbiamo di fronte, però dobbiamo sempre avere in mente chi abbiamo di lato, cioè il fatto che c'è una cittadinanza che si è espressa. E allora forse bisogna cominciare a dire che è questo qui il momento in cui le SPA totale capitale pubblico possono essere trasformate in enti di diritto pubblico. È esattamente questo il momento. Guardate, fate attenzione alla provincia di Varese che fa la sua bella in-house gestore unico e la provincia di Como che fa il suo bel gestore unico. Dentro le gestioni della provincia di Varese ci sta in alcune A2A. Dentro le gestioni della provincia di Como, in alcune ci sta A2A. A2A è già quella che c'ha in mano Milano, Bergamo, Brescia, che sta dentro Dolomiti Energia di Trento, che sta facendo accordi con IREN, che è Torino, Genova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, con ERA, che è da Modena fino a Pesaro, quindi già scesa nelle Marche, di qua c'è ACGAS APS, cioè Venezia, Trieste. Vi è chiaro che non siete il villaggio di Asterix che si difende? Cioè è chiaro a tutti cosa vuol dire se stiamo nel campo delle SPA? Sapete cos'è la liberalizzazione? La concentrazione, non è mai esistito il libero mercato. Libero mercato significa pesce grosso mangia pesce piccolo. Cioè se voi continuate a immaginare che la SPA, totale capitale pubblico, vi difende, dovete semplicemente decidere, non decidere, immaginare entro quanto tempo venite mangiati. Io ve lo dico perché secondo me, non perché sono estremista, ma perché sta dentro le cose. L'idea del gestore unico, avendo anche in una sola gestione A2A, serve ad A2A. Scordiamoci che poi dopo nell'ente d'ambito partecipano i sindaci, i cittadini. Guardate che anche quando c'era l'ATO, quello precedente, io ci andavo alle riunioni dell'ATO di Roma, provincia di Roma. Funzionavano così. Il tecnico di Acea diceva qual era il problema e qual era la soluzione, tutti gli altri alzavano la mano. E quando qualche volta qualche piccolo comune ha alzato la mano contro, il sindaco, scusate, il presidente, che era il presidente della provincia, quello che distribuisce i soldi per la cultura, ha detto a qualcuno dei sindaci minori: ma quest'anno a che gradino vuoi essere messo nei finanziamenti per la cultura? E la mano si è riabbassata e si è alzata sull'altra mozione. Tanto per chiarirci come funziona. Perché quando diciamo che c'è la crisi della democrazia, dobbiamo dire anche che o ce la riprendiamo la democrazia, cioè cominciamo a dire che vanno fatti i consigli comunali aperti, sempre e comunque su tutte le decisioni più importanti. Aperti vuol dire che partecipano i cittadini, che parlano. Io ve la dico per come la penso io, secondo me le primarie sulle persone sono una truffa, ma secondo me sono una truffa pure le primarie sui programmi. Io non chiederò mai a un sindaco che mi dica che è per l'acqua bene comune, perché quello non si nega a nessuno. A marzo a Marsiglia ci sarà il Forum Mondiale dell'Acqua, che a dispetto del nome è quello fatto dalle multinazionali. Sapete come si chiamerà? Acqua bene comune. Multinazionali del mondo si ritrovano per decidere come privatizzare l'acqua di tutto il mondo e chiamano quel forum acqua bene comune. Cosa bisogna chiedere a chi si candida a sindaco o chi è sindaco? Dimmi, io voglio le primarie sul dimmi quando, dove e in quanti prendiamo le decisioni che riguardano l'acqua. Cioè fammi sapere dove, quando e in quanti partecipiamo a decidere del piano d'ambito, della tutela dell'acqua, delle tariffe, della gestione. Questo ci deve interessare, non che qualcuno dica io sono per l'acqua bene comune e noi ancora una volta deleghiamo, perché non sta più in piedi. Ma non perché io sono dell'antipolitica, io penso che la campagna contro la casta sia un'altra truffa, non perché ci debbano essere i privilegi, ma noi quello che dobbiamo imputare ai politici è di avere consapevolmente per 30 anni consegnato i luoghi della decisione democratica ai mercati finanziari. Questa è la vera colpa. È la colpa per cui oggi le decisioni non si prendono dentro i consigli comunali, ma si prendono dentro i consigli di amministrazione. Voi votate i consiglieri comunali convinti che il loro compito sia gestire i beni comuni. Poi si mettono al tavolo e scoprono che l'acqua la discute il consiglio di amministrazione di una SPA, i trasporti il consiglio di amministrazione SPA, i rifiuti il consiglio di amministrazione SPA. L'energia, figuriamoci, quella si decide tra Putin e l'Algeria. Capite cos'è la democrazia oggi? Noi votiamo delle persone che devono amministrare beni comuni, dopodiché scopriamo che i beni comuni vengono gestiti da persone che noi non abbiamo votato, che stanno nei consigli di amministrazione. O interrompiamo questo meccanismo, o non ne usciamo. Due parole sull'SPA e l'ente di diritto pubblico, perché Monti sta attaccando esattamente questo. Monti ha inserito un articolo 20, che anche lì poi troviamo la scappatoia, ma è un articolo che si chiama aziende speciali. Quindi se uno dice stai attaccando l'acqua, dice no, c'è scritto acqua, c'è proprio, non se ne parla dell'acqua. Le aziende speciali possono gestire solo servizi non di interesse economico generale. Cosa vuol dire questo? Loro presuppongono che l'acqua è un servizio di interesse economico generale, quindi l'azienda speciale non può gestire l'acqua. È chiaro che se passa quello noi dovremo dire chi l'ha detto che l'acqua è un servizio di interesse economico generale? Secondo noi è un servizio di interesse generale, non di rilevanza economica. E quindi, però il tentativo è quello lì. Siccome hanno visto Napoli, Napoli è l'unico comune che sta realizzando il referendum, cioè che è passato dalla SPA all'azienda speciale. Tra l'altro si può fare. Io la cosa che sono esterrefatto è che poi quando sono stato in Veneto l'altro giorno con 10 sindaci che hanno le belle SPA tutta la comunità del pubblico, gli ho detto ma scusate Napoli, e Napoli è facile. Napoli facile? Cioè se c'è un ossimoro più grande è Napoli facile. Che cosa è facile a Napoli? Nulla è facile a Napoli. Se ci riesce Napoli vuol dire che si può fare in altre situazioni molto più facilmente. Allora proviamo a dire anche un paio di cose sulla SPA e invece l'azienda speciale. E so che avete un'amministrazione della Lega, giusto? Allora, se c'è qualcuno della Lega, io gli dico questa cosa. Lo sappiamo che noi quando facciamo l'SPA paghiamo le tasse? Cosa vuol dire? Io penso che le tasse siano un bene comune. entro certi limiti se le parliamo tutte, ovviamente, ma diciamo in senso astratto. Però voi provate a pensare, ogni anno lo Stato taglia i fondi agli enti locali, cioè li strangola progressivamente. Cosa fanno gli enti locali non avendo i fondi? Fanno le SPA. Non potendo gestire direttamente, esternalizzano e fanno le SPA. Ora però, facendo le SPA, che sono enti di diritto privato, pagano le tasse allo Stato. Sarebbe interessante che tutti gli amministratori leghisti ogni tanto facessero un ragionamento su questo, no? Se no, cos'è il federalismo fiscale e i soldi in casa nostra, no? Siamo di fronte a uno Stato che ogni anno dice al Comune, ti taglio le possibilità. Il Comune dice, porca miseria, mi hanno tagliato le possibilità, faccio una bella SPA. Facendo l'SPA pago le tasse allo Stato. Lo vogliamo interrompere questo circolo vizioso? Perché io sono perché si paghino le tasse allo Stato. Ma se lo Stato è quello che il 31 dicembre mi strangola e il 1 di gennaio con questo giro io lo devo pure ripagare, mi sembra che c'è qualcosa che non funziona nella dialettica fra ente locale e Stato nazionale. Le SPA pagano le tasse. Provate a vedere quante sono le SPA sul vostro territorio, andate a guardare i bilanci e provate a vedere da quanto tempo noi paghiamo le tasse, semplicemente perché invece che gestire direttamente dei servizi abbiamo deciso di fare delle SPA. Oltre al fatto che facendo l'SPA paghiamo dei consigli di amministrazione, paghiamo tutta una serie di... paghiamo il controllo, perché il controllo analogo, la famosa in-house che prevede il controllo analogo, provate a immaginare, controllo analogo vuol dire controllo analogo a quello che io ho rispetto ai miei uffici, come se io fossi, non so, il controllore dell'ufficio urbanistica del comune. Ora però, se la SPA in-house è fatta da capitali dei comuni, di cui per esempio il comune più piccolo conta lo 0,2% del capitale, ci sembra controllo analogo a quello che quel comune ha sul suo ufficio urbanistica, sul suo ufficio tecnico? A me sembra di no, perché l'ufficio tecnico è controllo totale. Anzi, qui c'è il sindaco e l'ufficio tecnico sta a 2 metri. Quel comune che conta lo 0,2%, per controllare quello che fa la SPA che gestisce tutto lato, a parte che si deve spostare di qualcosa come qualche centinaio di chilometri in certe situazioni, ma poi come fa a controllare? Conta lo 0,1%. Allora, la partecipazione, l'informazione. Fidiamoci pure del fatto che si scrive che abbiamo diritto agli atti. Un SPA è un ente di diritto privato. Se non vi dà le informazioni, ha ragione. Un SPA è come se voi chiedeste le informazioni alla Fiat. È un ente di diritto privato, non è tenuto a darvi le informazioni. Dopodiché succederà che ve le darà. Però non è un diritto. Cioè, attenzione che se qualcuno è magnanimo perché ha capito che deve concedere qualcosa, è diverso dal diritto. Noi non abbiamo il diritto di avere le informazioni dall'SPA. Questo sta scritto nella legge. La partecipazione? Che vuol dire partecipare alle scelte decise da un SPA? Non ci partecipano nemmeno i consigli comunali. I consigli comunali non sono più tenuti a produrre, poi possono produrre documenti, atti di indirizzo, ma le decisioni le prende il consiglio di amministrazione. Figuriamoci se i cittadini possono partecipare. Cioè, quello che dobbiamo metterci in testa è che non è che c'è qualche, diciamo, qualche ossessivo che ha in mente che ci vuole per forza l'azienda speciale e non la SPA. Ci sono delle motivazioni serie che stanno dietro questa cosa. Oltre al fatto che se io faccio l'ente di diritto pubblico, esco dal mercato. Finché sono un SPA, per esempio, un SPA non potrebbe fare campagne per il risparmio idrico. Perché? Perché va contro la sua ragione sociale. La ragione sociale dell'SPA è fare utili. Se gli utili io li faccio vendendo l'acqua, uno che nel consiglio di amministrazione propone il risparmio idrico dovrebbe essere cacciato, pedate nel sedere, perché va contro la ragione sociale dell'azienda. Guardate che non è teoria, a Firenze nel 2006 hanno fatto una meraviglia, Publiacqua, 60% Comune di Firenze e 40% Acea. Tra l'altro interessante perché Acea a Roma 51% del comune, quindi esce a Roma, fa il pubblico, poi prende il treno, va a Firenze e fa la parte privata. Gli stessi, Publiacqua ha fatto una bella campagna, salva la goccia. Tappezzato Firenze di manifesti, l'acqua è una risorsa, le future generazioni, risparmiate, non consumate. Se, i fiorentini incredibili ci hanno creduto, l'hanno fatto. 6 mesi dopo Publiacqua manda la bolletta in cui dice: siccome c'è stata una riduzione dei consumi del 9,5%, dobbiamo aumentare la bolletta del 9,5%. Poi gliel'ha scritto, non è che ha detto: siccome è avvenuto un'alluvione devo aumentare. Gli ha proprio scritto questa cosa, cioè loro prima hanno fatto la campagna, poi siccome la campagna ha funzionato gli hanno aumentato le tariffe perché c'era un mancato guadagno da parte della società. Queste cose sono, è un SPA coerente questo, Allora io non dico che, capisco che bisogna essere pragmatici e capire i rapporti di forza, però ogni tanto va ricordato agli avversari che noi abbiamo vinto un referendum. E va ricordato agli avversari anche per farli diventare alleati. Attenzione, guardate che se i comuni continuano a eseguire quello che gli viene chiesto, arriviamo allo strangolamento dei comuni, non ci saranno più i comuni. A me sembra evidente che tutte le politiche vanno per la riduzione di ogni ruolo dell'ente più prossimo ai cittadini. E allora bisogna che ci si cominci a ribellare. Il comune di Napoli, se Monti approva un decreto che dice l'azienda speciale non può più gestire servizi di interesse economico generale, il comune di Napoli ha già detto, noi abbiamo già dichiarato che il servizio idrico non è di interesse economico generale ma di interesse generale, quindi la nostra azienda speciale ce la teniamo e vediamo che cosa succede. Bisogna cominciare a fare così dappertutto, perché la partita è fra democrazia e mercati finanziari, non è più fra centrodestra, centrosinistra, oppure chiedo di più, chiedo di meno. La partita è, esiste ancora la democrazia, i cittadini possono decidere riguardo ai beni che gli appartengono, oppure se esistono semplicemente le divinità che si incolleriscono e alle quali noi dobbiamo sacrificarci per mitigarne la rabbia. E questa è la partita che dobbiamo giocare. Allora, ultima cosa sulla tariffa. Sta partendo in tutti i territori, spero che parta anche qua, la cosiddetta campagna di obbedienza civile, che si chiama obbedienza civile perché chi sta disobbedendo sono il potere di governo, l'Unione Europea e i poteri forti. Noi vogliamo obbedire al voto referendario. Cosa vuol dire? Vuol dire che parte una campagna in cui, oltre ad aver mandato le diffide ai gestori, agli ATO, dicendo cari signori, ci state mandando delle tariffe che non tengono conto degli ultimi cambiamenti normativi, cioè che c'è stato un referendum, vuol dire aprire reclami su quelle bollette e pratica, cominciare a dire io ti pago la giusta tariffa. Quindi non la chiamiamo nemmeno autoriduzione alla tariffa, lo chiamiamo giusto pagamento della tariffa e obbedienza civile, perché si tratta esattamente di pagare la tariffa che dovremmo pagare per legge, e si tratta esattamente di obbedire a un voto costituzionalmente garantito. Questa cosa è già partita in alcune regioni, partirà dappertutto, sul sito ci sono tutti i materiali, come fare. Io credo che questa sia la scommessa che dice cari signori, indietro non si torna. Ma perché è importante? Perché riattiva i cittadini. Perché l'obbedienza civile non la possiamo fare noi 25-30 che siamo qua. L'obbedienza civile comporta che tanti, centinaia, migliaia di cittadini facciano questa cosa. E allora vuol dire andare dai cittadini e dirgli la stessa cosa che ci ha permesso di vincere il referendum. Perché abbiamo vinto il referendum? Abbiamo vinto il referendum perché moltissime persone non si sono modificate, non sono diventate militanti, martiri. Ogni persona ha continuato a essere se stessa con la sua vita, le sue relazioni, il suo lavoro, i suoi problemi, ma moltissime persone hanno capito che potevano fare una piccola cosa, soprattutto hanno capito che se non l'avessero fatta loro non ci sarebbe stato nessun altro che l'avrebbe fatta al loro posto. Questo ha scatenato 4.200.000 persone che hanno cominciato ad attivarsi per la campagna. Adesso va riattivato esattamente quel meccanismo. Cioè ogni persona deve cominciare a dire, per difendere la democrazia, il voto referendario e quello che noi abbiamo deciso, io devo fare il mio piccolo pezzo. che è quello di partecipare a una campagna di obbedienza civile direttamente, di interessarsi rispetto a quello che succede, perché è in gioco davvero la democrazia, qualcosa di molto di più dell'acqua, che scusate se è poco l'acqua, cioè è in gioco la possibilità del futuro. E guardate che dalla crisi si esce esattamente se cominciamo a considerare un altro modello sociale che parte dall'idea che il mercato potrà pure avere un ruolo nella società, ma sicuramente bisogna tracciare un cerchio dentro il quale esistono dei beni comuni naturali, dei beni comuni sociali, che sono quelli che determinano il legame fra le persone, che determinano i diritti delle persone, che determinano la sopravvivenza delle persone, e quei beni devono essere sottratti alle leggi del mercato e gestiti non da un pubblico astratto o corrotto, ma dalla partecipazione diretta dei cittadini. Per dirla con una battuta finale, il modello liberista ha modificato lo spazio e il tempo, ha allargato enormemente lo spazio, c'erano le economie nazionali, ha fatto diventare l'intero pianeta un mercato unico, ha ristretto in maniera spaventosa il tempo. Le scelte hanno come obiettivo l'indice di borsa del giorno dopo. Noi dobbiamo fare esattamente l'operazione contraria, chiudere lo spazio, non quello culturale, ma riportare la produzione, i beni comuni alla territorialità e allargare enormemente il tempo. Il tempo delle scelte deve essere cosa succede fra 3 generazioni, non cosa succede il giorno dopo sull'indice di borsa. E questa partita che il referendum ha aperto, almeno come curiosità delle persone, è la partita che dobbiamo davvero giocare. Scusate se ho parlato troppo, ma... Devo dire che sono stato contento di aver portato qua Marco, perché l'ho sentito, è la seconda volta che lo sento, ma vorrei... Mi piacerebbe sentirlo ancora tante altre volte. Vado sempre uno per te. Esatto. C'è una forza. Se qualcuno del... Noi qua abbiamo un amministratore. Hai, so, se vuoi, se hai qualcosa da dire su questo argomento o per Lomazzo, non so. No, beh, per Lomazzo devo dire che per quanto riguarda la provincia, quindi l'ambito che si verrà a creare tra breve, avremo la votazione come sindaci fra pochi giorni. Okay, quindi a eleggere il consiglio d'amministrazione di questo fantomatico ex ATO. Okay? Quindi cosa succede? Ci sarà un presidente e 4 consiglieri. Praticamente questi consiglieri devono essere dei sindaci. Ad oggi non abbiamo ancora stabilito, non ci siamo ancora riuniti per capire chi potrebbe far parte di questo CDA. Una cosa interessante che rivolgo anche a voi, relatori, è quella se quella di avere un rappresentante di Lomazzo potrebbe essere positivo nell'ambito del territorio, avere quindi nel CDA un nostro rappresentante. Questo discorso che si diceva prima dell'AUS o dell'azienda speciale, che posizione ha l'amministrazione, si è fatta un'idea di questa cosa che è importante da quello che diceva Marco Bersani prima, o non è stata valutata? Ma adesso stiamo capendo appunto anche con queste esposizioni cosa significa e dove si vuole arrivare anche assieme. Prima dobbiamo appunto capire bene i nostri contatti, i nostri referenti, perché ovvio Lomazzo fa parte di un ambito che è quello attualmente fa parte dell'Urambiente. Però giustamente, come si diceva prima, l'Urambiente è suddiviso tra Como e Varese. Varese è già partito. Como che fine farà? Ancora questo è il punto di domanda. Quindi cosa ci aspetta? Per esempio, vabbè, io non abito più qua, quindi... Però voi avete 8 comuni più Saronno, 8 comuni che hanno già una gestione del servizio idrico integrato, più Saronno che ha la depurazione, giusto? Perché infilarsi nel lato Como e nel lato Varese? Ovviamente non dipende, gli atoli decide la regione, ma perché non provare a ragionare su un subambito previsto dalla legislazione che comincia a dire facciamo il subambito dell'Ura. C'è già il servizio idrico integrato, è sufficiente che Saron aggiunga acquedotto e distribuzione alla depurazione, è in linea con la filosofia della legge Galli che dice che i bacini che gli ATO devono corrispondere al bacino idrografico, è omogeneo, dopodiché l'ha trasformata in un'azienda speciale se non vi vengo a prendere, però consente una gestione in continuità con un'esperienza, un territorio, quindi di non fare chissà quali cambiamenti eccetera, e consente una gestione integrata di un bacino idrografico. Io, se fossi di questo territorio, chiederei agli amministratori, quelli che stanno in provincia di Varese, quelli che stanno in provincia di Como, di dire: noi 8-9 comuni pensiamo di poter fare un subambito che quindi si integrerà con gli altri ambiti per quello che sono le funzioni reciproche, ma che mantiene una gestione, perché attenzione, la legge non dice gestore unico, la legge dice gestione integrata, cioè non è obbligatorio avere un unico gestore per tutto l'atto, l'importante è che le gestioni siano integrate fra di loro. Allora io la strada del subambito LURA, chiamata come volete, insomma, per capirci, la metterei come proposta, chiederei alle nuove amministrazioni di cominciare a incontrarsi e dire: perché non facciamo questa proposta? La questione dei siccome vabbè, che l'ATO corrisponde alla provincia non è una novità, è da tempo che se ne parla, eccetera. È da tempo infatti che c'era questa proposta di dividere la provincia di Como in 4 subambiti, tra l'altro, proprio come escamotage di questa situazione. Il gestore, abbiamo il problema che la legge regionale, infatti su questo c'è stato dibattito, discussioni, contrasti, è la legge regionale che dice che deve essere un gestore solo, non è la legge nazionale. La legge nazionale parla appunto, diciamo, di un'integrazione, quindi di un coordinamento, che ci sta anche un coordinamento sul territorio, non è quello il problema. La legge regionale invece poi è intervenuta, perché è andata oltre per essere i primi della classe probabilmente, e ha detto: ci vuole un gestore solo. Però ciò non toglie su questo. No, infatti, no, su questo però voi avete un grande vantaggio, che esiste la provincia di Brescia. La provincia di Brescia è fatta in una maniera particolare. Ha la Val Camonica che è leghista fino al midollo, poi ha un pezzo che è centro-sinistra da sempre e un pezzo che è centro-destra da sempre. Quindi ogni tanto, diciamo, i difetti degli italiani vanno utilizzati. In provincia di Brescia il gestore unico non ci sarà mai. Perché? Perché la Val Camonica c'ha il suo subambito, la parte, chiamiamola centro-sinistra, c'ha il suo subambito e la parte centrodestra c'ha il suo subambito. Quindi la regione non ce la farà mai a dire che ci vuole il gestore unico, perché in provincia di Brescia, almeno per i prossimi 20 anni, non succederà mai. Allora, come sempre, la legge dice una cosa, però poi ci sono le storie, i territori, eccetera. Quindi io sono per aprirla questa strada. Sì, cioè, diciamo, mentre è più difficile, ma io appunto devo dire, però non è che si rinuncia per questo, cioè sono due discorsi diversi, poi il discorso pratico, intanto quello che abbiamo cerchiamo di incidere, però cosa vogliamo ottenere, dove vogliamo arrivare, sono altre cose. Diciamo, quello di riuscire, adesso vabbè, ci sarà l'ufficio d'ambito, rappresentanze, dovranno decidere come fare, di cercare di dire, magari sì, mi fai il coordinamento, ma mi fai diverse gestioni, non tutte frazionate come sono tuttora, per carità, ma magari il vecchio progetto dei 4 subambiti, su questo si può ancora tentare di giocare qualche carta, visto che comunque, appunto, quello si continua a dire, non siamo i soli, ma abbiamo dentro tutta una cittadinanza e problemi pratici poi, pratici di gestione, che vogliono dire, cioè, oltretutto, non è, qui non stiamo parlando di ideologia, tra l'altro, stiamo provando proprio di dire come devo gestire, se no non ci riesco, non funziona. Tra le altre cose, quello di avere la rappresentanza è ovvio, ma è quello che noi continuiamo a dire, per cui l'ufficio d'ambito non va bene, nel senso che nel momento in cui non si ha un contatto diretto con chi poi dovrà organizzare, sondare il territoriale, è ovvio che si perde di incidenza, non c'è niente da fare. Se Lomazzo avrà il suo sindaco che sarà nell'ufficio d'ambito, anche se il sindaco onestamente vorrà rappresentare tutti i comuni, per cui sarà rappresentanza per Giocaforza, che conoscerà meglio il territorio di Lomazzo, cioè non c'è niente da fare, anche per quello che l'ufficio d'ambito, il consiglio di amministrazione con solo 4 rappresentanti, per quanto devono essere 3 della provincia, come ne abbiamo 4, piccole cose, comunque non può funzionare bene. Poi certo, se i sindaci non andavano alle conferenze, non andavano alle assemblee, questa è una responsabilità personale, però avevano l'opportunità, adesso non ce l'hanno più. Anche il sindaco più onesto, che può fare, può mettersi l'impegno finché vuole, la conoscenza ce l'ha del suo territorio, degli altri territori ne ha di meno. Quindi, ma questo è l'interesse di tutti i comuni, non solo di Lomazzo, che viene a perdere, non c'è niente da fare. Anche se l'ufficio d'ambito non era nel referendum, però di fatto cioè, entra comunque in tutta la storia del referendum anche questo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Anche non domande. Domanda. Cosa pensi, essendo tra gli dèi dell'Olimpo, del fondo e l'acqua, cosa pensi degli attuali dèi, insomma, del governo, questo strano animale, governo Monti con 3 zampe, PD, PDL e UDC, in funzione della privatizzazione trattino finta liberalizzazione dei servizi ed in particolare dell'acqua. Cioè, tu cosa... No, stavi dormendo, quanto divinità, in quanto divinità preveggenza, preveggenza. Cioè, hanno serie intenzioni costruire, secondo me, di infilare il coltello. Allora, diciamola così, questo governo è stato chiamato per fare quello che gli altri governi non erano in condizione di poter fare, o per perdita di credibilità, o per perdita di consenso, o per scarsa considerazione a livello internazionale. C'è stata una sostituzione di personale politico per fare esattamente le cose che qualcuno ha chiesto, e quindi questo governo andrà fino in fondo, a me sembra abbastanza evidente. Andrà fino in fondo, salvo poi, per esempio, coi tassisti, secondo me non ce la fa. Tra l'altro, io abitando a Roma so che una delle 3 lobby che decide tutto a Roma sono i tassisti. Questo è chiarissimo, qualsiasi sindaco viene eletto dopo essere passato da almeno una decina di riunioni con i tassisti romani, altrimenti non ce la fa. Però adesso, al di là di cosa farà il governo Monti, e quello che noi dobbiamo domandarci è dove porta quella strada lì. Perché a me quello che sembra evidente è che se noi seguiamo quella strada lì, noi fra 3 anni siamo nella stessa condizione di oggi, peggiorata, senza possibilità di uscita alternativa. Cosa voglio dire? Qual è la differenza fra noi e la Grecia? La differenza fra noi e la Grecia è che noi abbiamo, nonostante 20 anni di privatizzazioni, ancora un patrimonio pubblico gigantesco. Lo scopo di queste manovre non sono quelle di risanare i conti. Fate due conti, proprio due conti. Solo per pagare gli interessi del debito, noi l'anno prossimo dovremmo avere un PIL che ha una crescita economica almeno del 5%. Non succede nemmeno se scende il Padre Eterno, proprio non succede. Vuol dire quindi che l'anno prossimo noi avremo un debito pubblico ancora più alto e quindi faremo altre manovre. Allora, quella strada non è la strada del risanamento. Quella strada serve a eliminare qualsiasi ruolo del pubblico nello Stato, nell'economia, nelle comunità locali e privatizzare tutto. Questa è la partita che vogliono giocare. Attenzione che questo non è solo sbagliato perché è brutto. Più noi ci facciamo sottrarre patrimonio pubblico, meno possiamo domani intraprendere una strada diversa. Chiariamoci, la Grecia, che ha seguito queste teorie da 3 anni, e non c'ha più nemmeno il Partenone, perché non so se lo sapete, è opzionato dai finlandesi che gli hanno mandato gli aiuti, domani che la Grecia dice basta, io questa strada non la voglio più intraprendere, su che cosa conta? Non ha produzione, vive di importazioni, non ha più patrimonio pubblico, non può più fare nulla. Lo vogliamo dire tutta fino in fondo, la Grecia è già in default, solo che non ce lo dicono perché non sta fra Laos e la Birmania, ma sta in Europa. Allora la Grecia serve per disciplinare noi, se non si fa così diventeremo come la Grecia, e allora noi, vabbè, facciamo. Allarme, situazione gravissima, se non si fa così diventeremo come la Grecia, e noi e via. Cioè la partita è di quel tipo lì. Allora noi però dobbiamo cominciare a immaginare che si può costruire un'altra partita. Vi faccio un solo esempio. Facciamo finta che tutto va bene per l'acqua. Si ripubblicizza, tutti d'accordo, i sindaci fanno tutto, noi ci troveremmo in una situazione di questo tipo. L'acqua è ripubblicizzata, abbiamo 70 miliardi di investimenti da fare in 30 anni per sistemare le reti idriche. Dove prendiamo i soldi? Se rimane il full recovery cost, non mi ricordo mai se è full cost, full recovery cost, cioè l'idea che tutti i costi sono pagati dalla tariffa, la bilancia è chiara. 70 miliardi, se devono andare in tariffa, io faccio gli investimenti, se vi alzo le tariffe, in maniera molto... Oppure, siccome mi dovete rivotare, non alzo le tariffe, quindi non faccio gli investimenti. Allora è chiaro che la riappropriazione sociale dell'acqua significa anche riaprire la partita della fiscalità generale e della finanza pubblica. Cioè cominciare a dire che tutte le cose che ci stanno raccontando in questa finta Europa, io sono un europeista, lo dichiaro, ma per salvare l'Europa bisogna combattere questa Europa. Se continuiamo a dire che l'Europa non si tocca, l'Europa va, si sfascia, per come la vedo io. Allora, riaprire la fiscalità generale e la finanza pubblica vuol dire alcune cose. Qualcuno dice, sì, riapriamo la fiscalità, vuol dire no. Vuol dire che, per esempio, prendiamo la fiscalità generale e cominciamo a dire che, per esempio, le spese militari possono essere ridotte. Poi magari andiamo in Europa e cominciamo a dire, cos'è questa cosa strana per cui le spese militari non entrano nel patto di stabilità, mentre le spese sociali sì? Forse in questo momento c'è più bisogno di spese sociali che di spese militari, allora fate il piacere di mettere le spese militari nel patto di stabilità. Le spese sociali, oppure quelle per le infrastrutture acquedottistiche, essendo un bene essenziale, escono dal patto di stabilità. E poi cominciamo a dire ai comuni, che io sono molto preoccupato dei comuni malgrado i nostri amministratori, nel senso che se guardo complessivamente, nessuna offesa per te ovviamente, se guardo complessivamente i nostri amministratori, complessivamente mi cadono le braccia. Ma siccome io penso che o noi difendiamo la democrazia di prossimità degli enti locali o siamo fregati, noi dobbiamo ricominciare ad aprire una partita che si chiama Cassa Depositi e Prestiti. Due parole su questo. Cos'è la Cassa Depositi e Prestiti? La Cassa Depositi e Prestiti, gli amministratori, fino a qualche anno fa, se la ricordano, nasce prima dell'Unità d'Italia ed è sostanzialmente una cassa pubblica che raccoglie il risparmio dei cittadini collocato sui libretti postali, libretti di risparmio postali, buoni fruttiferi postali. Cioè chiunque di noi ha risparmiato qualcosa, ha aperto qualcosa in posta, tutta quella parte di risparmio viene raccolta dalla Cassa Depositi e Prestiti, che fino al 2003 che compito aveva? Di servire da cassa per gli enti locali che dovevano fare degli investimenti e quindi potevano accendere i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti a un tasso calmierato. Poi nel 2003, quando è partita la stagione che perfino i genitori dovevano diventare delle SPA, la Cassa Depositi e Prestiti hanno pensato di trasformarla in SPA e quindi cominciano a orientarla al profitto. Poi hanno detto, ma perché non facciamo entrare le fondazioni bancarie nella Cassa Depositi e Prestiti? Infatti sono entrate e hanno preso il 30%. Curioso questo, perché la Cassa Depositi e Prestiti era in diretta competizione con le banche gestite dalle fondazioni bancarie e poteva avere il grande bacino degli enti locali perché aveva la possibilità di mutui a tasso calmierato. Entrano le fondazioni bancarie, che cosa succede? Che la Cassa Depositi e Prestiti smette di avere i tassi di interesse calmierati e comincia a avvicinarli sempre di più ai tassi di mercato. Nel frattempo qualche legge comincia a dire nel 93 che i comuni, che finisce il monopolio della Cassa Depositi e Prestiti sul finanziamento dei comuni, quindi i comuni possono cominciare a rivolgersi dappertutto, la Cassa Depositi e Prestiti diventa sempre meno competitiva e parte tutto il cinema per cui oggi abbiamo i comuni indebitati, con i titoli tossici, derivati e tutta quella meravigliosa cosa, che sono tutte cose che pagheranno i figli dei nostri figli, grazie al fatto che si è deciso che la Cassa Depositi e Prestiti non doveva avere più quella funzione. Anzi, la Cassa Depositi e Prestiti adesso è quella che finanzia la Prebemi, quella che finanzia le grandi opere, per cui pensate, noi mettiamo risparmio in posta, la posta la dà la Cassa Depositi e Prestiti, quella finanzia le grandi opere, poi noi andiamo a fare le manifestazioni contro le grandi opere, no? Questo è il risultato finale. Bene, però, fino a che era una cassa pubblica, essendo che era fatta quasi solo della raccolta del risparmio dei cittadini, c'era un tacito consenso dei cittadini che sapevano che la Cassa Depositi e Prestiti serviva a quello. Ora che la Cassa Depositi e Prestiti sta dentro l'ENI, sta dentro Terna, sta dentro dei fondi di investimento, tra l'altro tre stanno nei paradisi fiscali, tenete conto la Cassa Depositi e Prestiti il 70% è il Ministero del Tesoro, qui quando il Ministro dell'Economia dice faremo la battaglia di evasione fiscale, bisogna mettergli lo specchio davanti mentre lo dice, perché il nostro governo sta dentro fondi di investimento che stanno nei paradisi fiscali. Questo succede in Italia, no? Bene, se la Cassa Depositi e Prestiti è diventata tutta quella cosa lì, beh, forse i cittadini bisognerebbe cominciare a chiedere che i cittadini siano informati su dove vanno i loro soldi e che magari possano anche decidere, partecipare alla decisione di dove vanno i loro soldi. Perché io, per esempio, potrei decidere che se apro un buono fruttifero postale, forse voglio che quei soldi siano vincolati, per esempio, a finalità ambientali e sociali. Non voglio che quei soldi vadano da un'altra parte. Ma un tempo c'erano davvero i buoni postali e anche bancari su prodotti specifici, certo, no? Certo. Cioè buono orientato a energia. Sì. Vorrei solo darvi la dimensione dei soldi che ha la Cassa Depositi e Prestiti, così ci capiamo anche sulla crisi. Tenete conto che la manovra Monti sono 35 miliardi, no? La Cassa Depositi e Prestiti solo di raccolta postale ha 225 miliardi di euro l'anno. Vi do un'idea, Unicredit costa 40 miliardi. Cioè se la Cassa Depositi e Prestiti oggi dicesse compro il sistema bancario italiano, hai soldi per poterlo fare. Allora, quando diciamo che l'Italia non ha i soldi, quando dicono che l'Italia ci stanno prendendo in giro. Ogni anno la Cassa Depositi e Prestiti ha 225 miliardi di euro solo dalla raccolta del risparmio postale. L'anno prossimo ne avrà di più perché la gente che si è spaventata toglie i soldi dalle banche e dove li mette? In posta. Perché pensa, anche giustamente, no, che ha qualche garanzia perché i buoni postali sono coperti dalla garanzia dello Stato. Quindi l'anno prossimo la Cassa Depositi e Prestiti avrà ancora di più di 225 miliardi di euro. Allora, vogliamo cominciare a fare ragionamento e dire scusate signori, io non è che sono un vetero comunista che chiede la nazionalizzazione delle banche, però vogliamo cominciare a dire che la Cassa Depositi e Prestiti va ripubblicizzata e che tutti quei soldi che sono il frutto del risparmio dei cittadini e dei lavoratori deve essere finalizzato a uscire dalla crisi, però in un'altra direzione da quella che ci stanno dicendo? Per esempio riattivando la cosiddetta economia finalizzata per esempio a finanziamo tutti i 70 miliardi di euro per il rifacimento delle infrastrutture idriche, che produrrà 200.000 posti di lavoro, procura benefici al territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo cominciare a riprenderci in mano tutto. Vuol dire che dobbiamo smettere di pensare che alcuni meccanismi sono in mano ad altri. E siccome io non credo che oggi la classe politica complessivamente sia in grado, non per incapacità soggettiva, ma per come sono costruiti i meccanismi, che sia in grado di interrompere lo strapotere dei mercati finanziari, L'unico controaltare sono che i cittadini cominciano a riprendersi in mano le cose che gli appartengono. E allora, per esempio, noi, questa è la mia associazione ATTAC, stiamo immaginando di cominciare a impostare una campagna esattamente sulla Cassa Depositi e Prestiti, in cui cominciare a informare tutti i cittadini che hanno un risparmio postale di qual è la situazione, cominciare a costruire, per esempio, dei comitati di prestatori o di risparmiatori della Cassa Depositi e Prestiti, che cominciano ad andare a chiedere incontri con i dirigenti dicendo: signori, tutto quello che succede a voi dipende dal fatto che noi mettiamo dei soldi alla posta e quindi vogliamo discutere voi cosa ne fate. Tanto per darvi un'idea, il consiglio di amministrazione più il consiglio di indirizzo più il consiglio, perché c'è una governance gigantesca, costa 3 milioni di euro l'anno. Cioè, chi gestisce la Cassa Depositi e Prestiti costa 3 milioni di euro l'anno, 6 miliardi. Tanto per darvi l'idea di che cosa è diventata la Cassa Depositi e Prestiti. Vale per quello, vale per 10.000 altre cose. Vogliamo uscire dalla crisi dell'auto, della Fiat, facendo cosa? Producendo ancora auto? Non è possibile. Allora, presupposto che il diritto al lavoro non si tocca e che va difeso e stradifeso, dobbiamo cominciare a dire che bisogna smetterla di produrre automobili, bisogna produrre qualcos'altro. Ma chi lo può fare? Se non c'è, se lo Stato non ha la possibilità di indirizzare i fondi, se tutto è in mano al mercato finanziario e alle banche, come, dove sono i luoghi dove noi cominciamo a dire: signori, cercate di fabbricare autobus elettrici e non automobili, cercate di fabbricare pannelli solari e non altre porcherie? Chi lo può dire se tutto è in mano al mercato? Se tutto è in mano al mercato, continuerà a esserci l'estrazione di petrolio sempre più in basso. Continueranno a esserci, diciamo, le scelte che ragionano su cosa dice la borsa domani mattina. Guardate che anche gli amministratori politici non hanno il tempo giusto. Tempo giusto ce l'hanno i cittadini per quello che devono partecipare. Perché se il grande speculatore finanziario ha in mente la borsa il giorno dopo, l'amministratore ha in mente comunque i 5 anni e la sua permanenza è cosa fa 5 anni per continuare a proseguire il mio mandato. Sono i cittadini che hanno in mente, che hanno deciso di vivere in un territorio, vogliono che in quel territorio stare bene anche fra 20 anni, e poi vogliono anche che i loro figli stiano bene almeno quanto sono stati loro e magari un po' di più. Il tempo lungo ce l'hanno solo i cittadini, per quello che devono necessariamente partecipare alle scelte, non per assemblearismo o perché a me piacciono le rivoluzioni, no? È perché sono solo i cittadini che hanno il tempo lungo delle scelte, quindi possono dire all'amministratore: per favore, quel grattacielo lì, che tra l'altro ancora segnala che non sei uscito dalla fase fallica e che però ti serve solo per far vedere che tu hai dato la tua impronta fra 3 anni, non ha nessun senso. Forse ha senso che facciamo le fognature anche se nessuno le vede, ma i nostri figli staranno meglio. Ma finché funziona, cosa, che io fra 5 anni devo essere rieletto, le fognature non si faranno mai, perché non si vedono. E questo è il problema. Allora, o sono i cittadini a prendere in mano le decisioni e si faranno le fognature, oppure non succederà. Fermatemi, perché io... Mamma mia. Cosa possiamo fare noi, dato che c'è un amministratore pubblico? Rappresenta l'amministrazione, possiamo fare qualcosa di come associazione? Lo dico per me, ma magari interessa qualcun altro. Nel sito dicevi che c'è del materiale? Sì, allora se, sul sito del Forum Eventi per l'Acqua, che è acquabenecomune.org, sono tutti i materiali per la campagna obbedienza civile, tutti i materiali per ragionare sui percorsi di ripubblicizzazione. Poi ci sono tutte, diciamo, anche quello che sta succedendo negli altri territori, quindi diciamo trovate un po' tutto. Poi la cosa fondamentale è che, secondo me, proseguite il lavoro di, sul territorio, di consapevolezza, sensibilizzazione. Insomma, i cittadini devono essere costantemente informati di quello che sta loro succedendo. Poi agli amministratori, secondo me quello che va chiesto agli amministratori è di essere permeabili. Permeabili vuol dire che se io ho di fronte una comunità passiva, l'amministratore fa le scelte. Se io ho di fronte una comunità attenta, l'amministratore deve rendersi permeabile, cioè deve non vedere questo come un'insidia, ma come qualcosa che sicuramente lo mette in discussione in qualche punto, ma che consente alla comunità complessivamente di essere domani migliore di ieri. Io credo che gli amministratori, io diffido anche degli amministratori che dicono facciamo la democrazia partecipativa. Quando mai si è mai visto che un sovrano cede per dispotismo illuminato dei pezzi di sovranità? Io quando andavo al Foro Mondiale di Porto Alegre era pieno di sindaci a partire da Veltroni che arrivavano là, si facevano spiegare la democrazia partecipativa dei paesi latinoamericani, prendevano appunti come negli stage delle multinazionali, poi tornavano, abbiamo il manuale della democrazia partecipativa, no? Come se fosse una cosa ingegneristica da applicare, e ovviamente non funzionava. Perché? Perché il sovrano fa la democrazia partecipativa finché non entra in conflitto, quando entra in conflitto chiude i rubinetti e dice la democrazia partecipativa non funziona. E secondo me però non deve nemmeno farla. Il sovrano, tra virgolette, tanto non si deve chiamare sovrano, ma diciamo l'amministratore deve essere permeabile, cioè deve sentire cosa succede fuori dalla finestra e se c'è una città attiva deve far entrare quell'aria. Anche dicendo non sono d'accordo su una cosa, ma deve vedere. Io la cosa che io trovo devastante del dopo referendum è che la straordinaria esperienza di partecipazione, guardate che in tempi di crisi è un anticorpo sociale democratico gigantesco. Chiunque è amministratore dal più piccolo livello fino al Presidente della Repubblica dovrebbe benedire quei 4.200.000 persone che, presi da disillusione, da crisi, da tutto quanto, hanno deciso di credere ancora che il mondo può essere diverso, che le cose insieme si possono fare, che tutti possono partecipare. Quella cosa andrebbe benedetta da molto lontano. E invece cosa viene considerata? Una minaccia. Viene considerata cosa vogliono questi. Viene considerata, ma no, ma questi scherzi, non hanno capito le conseguenze dei loro voti. Questo è il dramma della situazione in cui noi siamo, che la vivacità della società viene considerata o ingenuità o pericolosa, invece di essere benedetta, perché se non ci fosse quella vivacità lì, noi saremmo qui a spararci l'un l'altro per un posto in autobus. Perché la crisi non è che produce solidarietà, attenzione, la crisi produce tensioni sociali gigantesche. E allora pensare che invece c'è una società che comunque si connette, si mette insieme, costruisce processi, percorsi, è una risorsa gigantesca per il futuro di questo paese. E però lo sanno i cittadini e continuano a non capirlo, ma neanche lontanamente, tutti quelli che si candidano a rappresentare i cittadini. Dopodiché, in generale, io agli amministratori chiederei, la prima cosa che chiederei è che chiunque si candida ad amministrare il pubblico deve dire se pensa che il pubblico è meglio del privato. Questo è un prerequisito. Non perché tutti la devono pensare uguale. Per me uno che pensa che il privato è meglio del pubblico lo può dire, ma non può fare il sindaco. Cioè noi non possiamo avere Bassanini che ha fatto per 4 volte il parlamentare, adesso è presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Cioè è uno che ha fatto 60 anni pagato dal pubblico per dire che il pubblico non funziona e fare leggi per la privatizzazione. Chi pensa che il privato è meglio del pubblico, sul pianeta c'è spazio per tutti, ma non deve gestire il pubblico. La seconda cosa è che ci sono dei beni che se anche io prendo il 99% non posso mettere sul mercato. Oh, ma è come se il vostro amministratore di condominio arrivasse e dicesse buonasera, ho venduto l'ascensore e la tromba delle scale. Però se succede, voi, se un sindaco dice ho messo sul mercato l'acqua, non c'è la stessa reazione. Cioè perché noi immaginiamo che uno possa mettere sul mercato l'acqua, o l'energia, o i rifiuti, o i trasporti? Attenzione, non è questione di consenso sociale. Quei beni appartengono a tutti. Secondo me se anche uno prende il 99,9% non può farlo. Proprio è questo che noi dobbiamo cominciare a mettere come paletti, anche solo per il fatto che quei beni lì, come faccio a conservare l'acqua se io la metto sul mercato? Il mercato guadagna consumando più acqua possibile. Come faccio a risparmiare energia se la metto sul mercato? come faccio a gestire i rifiuti in modo che spariscano le discariche e gli inceneritori se le metto sul mercato? L'inceneritore è centinaia di volte più redditizio della raccolta differenziata, questo è evidente. E allora se i rifiuti sono gestiti secondo leggi di mercato, più rifiuti produco, meglio è. E più ne incenerisco, meglio è. Posso fare una domanda? Sì. Come mai c'è questa forte resistenza da parte degli amministratori a costituire aziende pubbliche che invece sono più favorevoli nei confronti dell'in-house? Beh, perché la favola che abbiamo raccontato che stava finendo ha sedimentato in maniera forte. Cioè, voglio dire, come mai... Perché nell'in-house comunque possono entrare dei... Cioè, allora perché c'è questa resistenza nei confronti? Cioè, perché non, ad esempio, no, a Como non fanno un'azienda? Secondo me perché continuano a resistere, io lo dico proprio sinceramente, è come se gli amministratori cresciuti negli ultimi 20 anni pensino che le SPA siano come la... No, come il cielo notturno. Ci sono le stelle, ci sono le SPA. Una SPA che non può fare profitti non ha ragione d'essere. Cioè... Ma perché mantengono le SPA? Perché nel frattempo sono gli stessi che ti dicono col cavolo che tolgo i profitti dalla tariffa. È evidente. Perché vengono dal patto di stabilità che non gli ha mai concesso di fare nient'altro se non con le SPA. In realtà non è così vero. Cioè, diciamo... Qua non fai una fognatura se non la fai fare a una SPA. Non la fai. Vabbè, difficilissimo. No, ma il risultato finale è quello. Diciamo che è stato preparato nell'arco di 20 anni col patto di stabilità interno uno strangolamento progressivo delle capacità dei comuni, che poi è diventato anche da una parte cultura. Pensa per esempio a tutta la storia della sinistra, che a un certo punto, per farsi perdonare il fatto che ha smesso di pensare di cambiare il mondo e quindi per dire no, ma noi possiamo governare, è diventata più realista del re. La possiamo dire senza che nessuno si offenda, chi ha veramente interiorizzato la cultura delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali è il vecchio PC, DS, PD. Hanno ideologizzato molto di più questa cosa che per esempio la destra. Parliamoci chiaro, Berlusconi per usarlo come esempio, lui fa il servo dei poteri forti, per cui dice scotennatevi là dietro, poi mi dite l'esito e io assegno. Non ha una cultura, non viene a dire che è meglio privatizzare, che è più efficiente. Lui ha deciso che serve alcuni interessi e risponde a quegli interessi. È stata molto più la sinistra che invece ha cercato di spiegarci e anche di autoconvincersi della grande strada della modernizzazione del paese attraverso le liberalizzazioni, perché dobbiamo entrare... Il candidato Bassanini basta citare Lanzillotta, così, che tra l'altro la moglie, no? E quindi questa cultura ha sedimentato molto. Poi aggiungi un pezzo. Se io mi candido a sindaco e c'è l'acqua che la gestisce qualcun altro, i trasporti qualcun altro, i rifiuti qualcun altro, ma chi me lo fa fare a me di dire ah, adesso facciamo una grande roba democratica, rimetto qua l'acqua, cioè lavoro il triplo, ho responsabilità quadruple. Adesso io posso dire ai cittadini che se non funziona qualcosa dell'acqua che si rivolgano all'SPA. Quindi ci sono un insieme di cose che non è tutta colpa dei sindaci, sono trovati tutto un quadro per cui anche culturalmente ti formi in quella direzione. La cosa straordinaria è che poi i sindaci che fanno l'SPA dalle guide del pubblico cercano di spiegarti che la loro in realtà è un'azienda che ha l'interesse pubblico come missione. E quindi noi dovremmo concludere che queste aziende sono delle aziende transgender, cioè che hanno il corpo che non corrisponde all'anima. E infatti io dico sempre che in genere chi si trova in quella situazione a un certo punto fa un'operazione per far corrispondere il corpo all'anima. Cioè, se io ho l'anima del servizio pubblico, perché la tengo dentro un corpo che è il contrario del servizio pubblico e che non mi dà nessun vantaggio? Questo è il mistero. però questo mistero sono i cittadini che devono cominciare a dirlo. Guardate che 5 anni fa, quando noi abbiamo detto fuori dall'SPA, sembrava che stessimo bestemmiando in chiesa. Perfino dentro al movimento dell'acqua c'era chi diceva, ma no, ma cosa stai dicendo? Bisogna fermarsi all'SPA totale capitale pubblico. Allora i rapporti di forza erano di un certo tipo e quindi anch'io dicevo, vabbè, mi fanno schifo, ma sono un argine. Il problema è che quando l'argine non funziona più, solo gli imbecilli o in Italia si ricostruisce l'argine esattamente dove era prima. Normalmente quando un argine viene travolto, uno che guarda le cose dovrebbe vedere dove è andata l'acqua e rimodulare il territorio tenendo conto di cosa ha fatto l'acqua. La SPA, a totale capitale pubblico, è stata buttata giù dal governo che ha cominciato a dire articolo 23 bis. Le SPA non ci devono più essere, le SPA a totale capitale pubblico non ci devono più essere, bisogna privatizzare. Ma è stata buttata giù anche dai movimenti che hanno scritto una legge di iniziativa popolare che dice il problema sono le SPA. Quindi quell'argine, che allora poteva ancora svolgere il ruolo di argine, non lo svolge più. Io non vorrei deludervi sulle vostre aspettative, ma secondo me la SPA, totale capitale pubblico nella provincia di Como o di Varese, resiste tre mesi come concetto. Tra 2 mesi voi troverete già le prime dichiarazioni del gestore che dice ma perché non facciamo quello, quell'altro, che perché è un argine che non tiene più, la partita è andata oltre. La partita oggi è o pubblico vero o privatizzazione totale, i margini in mezzo non ci sono quasi più, che se ci pensate è esattamente quello che hanno detto i governi, quello che ha detto il referendum, quella lì è la partita. Allora non vuol dire che io non devo tener conto dei piccoli passaggi che ottengo nel territorio, ma non devo avere l'idea che è sufficiente, perché se no arriva il peggio. Non è così. Il peggio arriva se io accetto. Cioè ogni volta che io abbasso la linea, e siccome abbiamo vinto un referendum, accontentarsi di molto meno vuol dire abbassare la linea, perché questa volta non è che possiamo dire, beh, non ci abbiamo il consenso, portiamo a casa quello che vogliamo. No, questa volta noi abbiamo vinto un referendum, sono loro che hanno il problema del consenso. Se io abbasso molto la linea, convinto che mi sto comportando come gli dèi, no? Se non li faccio troppo arrabbiare, qualcosa mi consentono. Non funziona così. Se loro capiscono che noi siamo deboli, mangiano, mangiano, mangiano. Perché il problema non è che sono più cattivi, è che le condizioni oggi non consentono che qua lascio andare, che qua permetto, che la faccio. Le condizioni oggi sono che devono andare giù pesante. Allora ci vuole una forza d'urto adeguata che dice attenzione, c'è un popolo che ha votato diversamente. Poi secondo me vanno cambiati gli amministratori, nel senso che bisogna cominciare a costruire, formare persone che smettono di pensare che la SPA è la Via Lattea, che non si può... Guardate che i nostri nipoti si metteranno a ridere quando gli diremo che noi vivevamo in un posto dove ci sono alcune amministrazioni di centro-sinistra che fanno le SPA sui servizi sociali. I nostri nipoti si metteranno a ridere quando gli diremo che noi avevamo fatto delle SPA dappertutto. Si metteranno a ridere. E abbiamo oggi amministratori che pensano che l'SPA sia sempre esistita. Sono amministratori che mi dicono, ma cos'è l'azienda speciale? Oh, fino al 95... questo paese c'erano solo le aziende speciali, solo le aziende. Il 95 è 15 anni fa, 20, no, 20 anni fa. Secondo me, scusi, Rodotà diceva che i cittadini dovrebbero diventare azionisti delle società, della comunità. È una cosa giusta oppure è sbagliata? No, credo che Rodotà non, se l'ha detto non lo pensa più. No, perché i cittadini sono già azionisti, cioè perché la democrazia deve comportare il pagamento di un'azione? Nel senso comprare, cioè comprare, sì, no, no, l'SPA. Io ho capito il senso che dice Rodotà, però vuol dire, noi nasciamo in un territorio e abbiamo l'acqua e poi votiamo e quindi siamo già gestori. Perché io per poter esercitare il mio diritto di dire le cose devo comprare un'azione? Allora decidiamo che non esiste più la democrazia, che esiste la democrazia basata sul censo. È una testa un voto, un dollaro un voto. Ok, però a questo punto potrebbero diventare contrari, cioè le società per azione a capitale, cioè per profitto, per contrastare questa cosa. Cioè, è sempre peggio di un in-house, però, perché poi il consiglio di amministrazione conta, non che l'in-house sia la panacea, e tra l'altro ci tengo a dire che noi non ci, come ho detto prima, non ci vediamo cioè, assolutamente che qui vada via panacea. Tutto liscio, tutto bene, siamo sempre con le antenne dritte, quello che ci stiamo sentendo con i vari comitati locali, stiamo cercando di far capire che non è che adesso siamo tutti tranquilli, dobbiamo sempre tenerci in rete, essere attivi per far capire che questa forza c'è ancora e non è che ci siamo addormentati e non siamo attenti, se no perdiamo tutto, non c'è, perché è ovvio, devi far sentire che la forza non è finito col voto, i cittadini ci sono ancora e anche i comitati, chi ha agito in modo più diretto c'è ancora. Nel momento in cui i cittadini diventano azionisti di una società classica, non è più un in-house per forza di cose, non è più, a questo punto è un consiglio di amministrazione che gestisce e basta. Nell'in-house, ripetiamo, non è quello che così, però comunque hai che ci sono gli enti locali che hanno questo controllo analogo, che è un meccanismo complesso e non è facile, però comunque è sempre meglio di un consiglio di amministrazione. Oltretutto appunto l'in-house è una cosa strana perché non è del diritto italiano, è una costruzione della Corte, neanche del diritto in senso stretto europeo, ma della Corte di Giustizia Europea, che per salvare delle situazioni in Germania, no, che era nata, ha inventato l'in-house dando dei paletti, dando delle caratteristiche che poi si va a inserire nel nostro diritto, fa un po' fatica. Tanto è vero che anche la Corte Costituzionale ha cercato un attimino di salvare questa cosa dicendo: sì, possiamo benissimo eliminare il 7% perché comunque una società, nel caso del, parlavamo di questo, del servizio idrico, l'importante è che vada in pareggio tra coi costi. Quindi ha tentato, no? Insomma, di salvare un po' questo e quello. Quindi comunque se tu fai un SPA, per esempio, cioè l'SPA comunque ha i problemi di quello che è una società di capitale, sia sia in house sia che non sia in house. Quando non è in house è molto peggio, diciamo, proprio perché hai questo consiglio di amministrazione che noi abbiamo visto, anche se qualcuno ti viene a dire sì, ma poi i soci cosa? Lo sappiamo benissimo, poi come funziona, infatti l'abbiamo visto, l'abbiamo tutti esperienza, il consiglio di amministrazione decide. Spesso decide, abbiamo avuto gestioni sul territorio di depuratori che alla fine i comuni hanno tentato di toglierli perché sì, è vero che erano gli azionisti, ma poi non riuscivano a seguire la cosa. Cioè... Ma su questione del controllo analogo, ci dovrebbe essere una relazione e dei report che arrivano in comune, sì, ai consigli comunali. Io queste cose qua in consiglio comunale non le ho mai viste, soprattutto all'agroambiente, non ci sono mai. Abbiamo chiesto più di una volta al Consiglio Comunale di farci avere una relazione, di leggere dai rappresentanti e di vedere il report, non abbiamo mai visto niente. Addirittura ci è stato detto che non si fa, cioè, è una cosa che non è mai stata fatta. È una cosa giusta secondo voi? Secondo me no. Secondo lei? Ma se non facevate l'agroambiente SPA, il controllo analogo riuscivate a fare. Però posso dire una cosa sull'agroambiente SPA? Posso dire una cosa sull'agroambiente SPA? Fino a due anni fa, quando producevamo utile, avevamo l'obbligo dello statuto di reinvestirlo completamente in opere, che puntualmente sono fatte, sono riportate, basta che prende il bilancio sociale e vede le opere degli ultimi 5 anni, che abbiamo fatto in tutti i comuni. Se vuole guardare i bilanci non c'è nessun problema, se lo chiede al sindaco del comune di Omazza, secondo me il bilancio glielo gira tranquillamente. Era un'altra, era la relazione dell'operato, era un'altra cosa. La relazione sull'operato? La relazione sull'operato deve essere fatta in consiglio comunale. Non mi avevi mai visto una cosa di questo tipo. Un altro che sta ponendo. Primo. Seconda cosa, i report ci sono. Ogni 3 mesi, 6 mesi ci sono. Io normalmente non ho capito il documento. Il documento. Documento deve essere mandato. Cosa momento. Viene fatto e cosa non viene fatto? Certo, da parte di un ambiente? Certo. È stato chiesto. Sì, no, per l'amor del cielo sono fatte una fucilata di cose. L'approvazione di darvi il proseguimento del mandato di gestire l'acqua pubblica europea. Cioè, io ho votato contro, sinceramente, per posizione, però lo dico, non è la cosa giusta, voi non siete ancora in regola con la legge europea, e questo è grave. da operante del settore, io trovo che quello che facciamo noi come azienda per il comune è veramente veramente tanto rispetto anche ad altri enti gestori. Adesso poi magari qualcuno ha delle esperienze negative con l'ambiente, però no, ma anche sul fatto che mancano dei report e mancano delle rendicontazioni, probabilmente io sono convinto che basterebbe forse una comunicazione in più, magari se per voi è importante, se il sindaco ce lo richiede, che tipo di documentazione avete bisogno, che cosa volete, se è una questione economica, se è una questione proprio di numero di interventi fatti. Noi abbiamo tutto censito, dal numero di caditoria che studiamo, al numero di spurghi che facciamo, al numero, abbiamo tutto pronto anche per essere restituito tranquillamente al pubblico, perché comunque sia noi siamo l'espressione del noi lavoriamo per conto del comune, a dispetto di qualsiasi amministrazione, che sia di destra, di sinistra, di su o di giù. Il nostro numero di cellulare, mio, del Giometta Liboni, ce l'ha praticamente tutti i cittadini OMAZ che arrivano comunque sempre a noi tramite il centralino. C'è un numero verde, siamo sempre nel limite del possibile, il più possibile pronti a fare bene il servizio. Io questa, non lo so, nasco, sono da 10 anni, ho cominciato a lavorare in un SPA, sono da 10 anni che sono in un SPA e trovo che difendo, scusi, finisco di parlare poi, e difendo l'operato dell'SPA intesa come quella che stiamo producendo qui sul territorio come loro ambiente. Infatti dicevo appunto che il profitto, noi abbiamo anche avuto degli anni in cui la depurazione con le aziende ci potevamo avere del profitto, abbiamo avuto del profitto, è stato tutto prontamente reinvestito ed è scritto nelle opere che abbiamo fatto, perché come dicevo prima, le fognature, difficile che uno le fa. Molto difficile che un amministratore le fa, le facciamo noi perché avevamo degli utili da investire, potevamo investire su acquedotti e fognature, abbiamo fatto un'interconnessione da milioni di euro e delle fognature nuove eccetera. Quindi quello che potevo dire è che da piccola esperienza dell'SPA che abbiamo avuto, che ho avuto io, che tra poco cambierà, che forse in determinati piccoli ambiti potrebbe anche funzionare, almeno io credo che noi siamo l'espressione di una cosa che funzionava. Ho paura anch'io del carrozzone, quello no, ovviamente. Non sto dicendo che non funziona, no, però è la questione della gestione, cioè mandare solamente una relazione così finale e noi che siamo che partecipiamo e non abbiamo nessuno che viene in consiglio comunale a dirci le cose stanno così, funzionano regolarmente, abbiamo fatto questi investimenti, non ci sembra una cosa giusta, non ci sembra un adeguamento alla legge europea. Questo. Poi dopo non so, loro sono più esperti di me, certamente sanno i vari punti, è questo che vi chiedevo. Anche come è stato fatto la convenzione, perché in effetti quando era stato fatto un censimento dell'in-house per vedere se applicare la legge o no, anche per quello che poi si è arrivato il 23 bis, perché si era visto che per quanto spingevano a privatizzare, la maggioranza poi sceglieva alla peggio l'in-house, ma nessuno privatizzava nel senso stretto della parola, ecco, per quello che poi si è arrivato l'23 bis, perché per quanto spingevano non riuscivano mai a varcare quel numero che, come ha detto lui, si era messo, no? Però era venuto fuori che la maggioranza aveva, non la maggioranza, una buona parte aveva delle piccole discrepanze rispetto alla normativa europea, che non ci voleva molto a sistemarle e a rientrare in pieno nella normativa europea. Può darsi che questa sia una di quelle che era stata rilevata, che però bisogna stare attenti, perché nel senso poi dà spazio a ricorsi, perché se non sei un in-house devi mettere a gara. Però qui si entra in questioni molto tecniche e locali, che poi si possono vedere su ogni territorio i problemi che ci sono e sistemarle. Ovviamente l'azienda pubblica è tutta un'altra cosa, quella pubblica non azionista, l'azienda pubblica. Giustamente come diceva, bisogna alzare la tariffa dell'acqua, cosa facciamo, cosa facciamo? Diceva, allora, i cittadini comprano un pezzo e mano a mano vanno avanti e mettono a posto le reti. Qui le nostre reti sono abbastanza buone, ma in giù in Puglia lo sfascio totale. Anche nel territorio della provincia abbiamo situazioni da chi ha problemi grossi da sistemare e chi ha già sistemato tutti, non è omogenea la provincia di Torino. Direi di chiudere qui, ormai quello che... Grazie a tutti. Grazie.